La zanzara con Alessio Maurizi. 18:36, buonasera, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 824 0024, il numero verde per poter intervenire in diretta come ogni sera. 349 238 6666, se volete scriverci, la zanzara è radio24.it. Cominciamo anche questa sera con i titoli di TG, TG2. A Malpensa ha fatto brillare un pacco sospetto, ma dentro non c'era esplosivo. L'allarme terrorismo dilaga negli scali di tutto il mondo. Ritrovati i diari dell'attentatore nigeriano del volo per Detroit. Lo scudo fiscale ha permesso il ritorno in Italia di 95 miliardi di euro. Soddisfazione al Ministero dell'Economia. Valgono più di 6 punti di prodotto interno lordo. Sul lago Massaciucoli il TG2 con i militari che aiutano ad evacuare le case allagate. Si lavora sugli argini stanotte. Nuova allerta meteo. Boom di visitatori nei musei statali italiani per le feste di Natale. In testa alla classifica Colosseo, Reggia di Caserta e Galleria Borghese. Così dunque il TG2, adesso studio aperto. Maltempo, ore di paura in Toscana, il lago Massaciucoli continua a crescere, in arrivo altra pioggia, pronti i piani di evacuazione, sacchi di sabbia sugli argini, ma la gente si chiede, basterà? Torna l'allarme terrorismo, oggi pomeriggio alla Malpensa è stato fatto brillare un pacco sospetto, aveva innesco e fili elettrici, pubblicati online i diari dell'attentatore nigeriano, non ho amici, scriveva. Anziani massacrati a bastonate nella loro casa, la feroce rapina nel Salernitano. Marito e moglie sono stati aggrediti da 3 malviventi incappucciati, cercavano i loro risparmi, poche migliaia di euro. Petardi tanto potenti da tirar giù una casa, razzi da 300 colpi e pistole cariche. Ecco il capodanno stile Gomorra dei tredicenni di Napoli, immagini e documenti esclusivi nella nostra inchiesta. Nel feudo leghista spunta un piccolo Obama. David, 13 anni, originario della Costa d'Avorio, è stato eletto baby sindaco del comune di Stezzano, in provincia di Bergamo. Lo abbiamo incontrato. È stata la regina indiscussa del 2009, ha spopolato in TV e su tutti i giornali. Ora il settimanale Panorama le dedica anche l'ultima ambita copertina dell'anno. E Belen Rodriguez si confessa ai nostri microfoni. Pare, così dunque studio aperto, che il primo frutto del nuovo clima di concordia nazionale riguardi niente proprio di meno che il gioco d'azzardo. Cominciamo a sentire di che si parla. Insomma, siamo in amore, vince sicuro. Non vedi questo? E vince sì che vince, oh, ma che te credi che io faccio l'oroscopo? Perché il cavallo è come la donna, se chi lo tiene non è virile, non si eccita. Quando correvo io li tenevo. Allora, mon amour. Vincente. Oh, ma i soldi dalla parte tua ce l'hai? E ce l'ho sì, è il tempo di rimediarlo. Non si è visto Manzoting, il macellaro? Che te sei giocato, Manzoting? A pomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzoting? Mi chiamo Rinaldi Otello. Sì, 3 chili di trippa e 2 di butello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare. Allora, che te sei giocato? O sole mio, ma che te frega a te? Te voglio bene, te voglio aiutare. Te voglio dare un cavallo buono. Gioca dei Paganini, quello che c'ha qua la macchia bianca sulla fronte. Guarda che Paganini, non c'ha nessuna macchia bianca sulla fronte. Non vedi questo, ma si vede che non c'hai spirito di osservanza. Scommetti 20.000 che manco ti ricordi di che colore ti sei messa la cravatta stamattina. Au, mi tocca a fare sto furto. E dai, scommetti, te che colore ce l'hai? Io porto una cravatta sola, gialla russa, come a Roma. Hai perso, Manzoting, non te la sei messa la cravatta stamattina. Sgancia. Febbre da cavallo, Montesano e altri strepitosi protagonisti, si parla di gioco d'azzardo perché in effetti, e questa potrebbe essere una clamorosa notizia, c'è una iniziativa per certi aspetti concorde, da una parte l'Italia dei Valori, dall'altra il PDL, così Di Pietro sul suo sito ieri. Il gioco d'azzardo è illegale, comunque anche quello considerato non d'azzardo, attraverso il quale lo Stato percepisce entrate fiscali dal capogiro, è un'indecenza. È stato riconosciuto dal CNR diversi studi che il gioco scommesse è un'attività che crea dipendenza, come le droghe, il fumo o l'alcol. Non voglio con questo precludere la libertà di un cittadino, dice Di Pietro, di poter scommettere o meno. Sto dicendo che al cittadino non può essere venduto il gioco come miraggio di vincite milionare. milionarie in realtà dalle probabilità infinitesimali, dice Di Pietro, e come alternativa il gioco ad una vita basata sul lavoro e sulle proprie capacità. Con chi ce l'ha Di Pietro? Con per esempio le pubblicità o comunque con l'offerta che c'è ampia di giochi di tutti i tipi, dalle scommesse alla ricevitoria, alle slot machine, per esempio spot come questi in TV, sentiamo. 12, 11 e 10 ti aspettano ogni sabato. E Enalotto, anche tu. Anche noi. Il 12 Enalotto è sempre milionario. Anche noi. Enalotto, un sabato alla grande. Enalotto. Ti piace vincere facile? Gratta e vinci ti circonda di fortuna. Tanti biglietti, tante occasioni. Siediti. Gioca. Allenati e divertiti con Season Poker. Oggi il jackpot più alto d'Italia è ben 63 milioni e 800 mila euro e puoi vincerlo anche online. Vinci per la vita, win for life. Tu sei leggero e spensierato. Vinci per la vita, win for life. Finalmente sistemato. Fin qua le critiche dell'Italia dei Valori. Poi che succede? Che a Sanremo un assessore del PDL, Gianni Berrino, annuncia di avere preparato un nuovo regolamento dei servizi sociali che colpirà proprio quelli che non sanno rinunciare al brivido del gioco. I contributi, leggiamo sul Secolo XIX di oggi, che pesano sulle casse del comune per circa 850.000 euro annui, saranno automaticamente revocati, i contributi revocati a coloro che saranno sorpresi a frequentare il casinò, le sale giochi, i bar, gli altri locali pubblici che offrono new slot, videogiochi vari e presto magari anche le famigerate videolottery e le slot machine di nuova generazione. E perché, aggiungo io, non anche il lotto, il superenalotto e tutti gli altri giochi. Dunque la notizia è questa, c'è cioè un fronte congiunto PDL Italia dei Valori che se la prende in qualche modo con il gioco d'azzardo, una nuova frontiera nel necessità di risparmio di soldi pubblici, oppure una nuova voglia di divieti, oppure semplicemente come dire, ce la prendiamo con questo fenomeno del gioco che qualcuno dice insomma potrebbe avere per vittime anziani, sprovveduti, magari giovani, bambini che spendono tutte le loro fortune, piccole o grandi, nel gioco. E va bene, questo era un primo tema, ci abbiamo anche scherzato un po' su. Prima pagina di Libero, seconda e terza pagina di Libero, dedicate a che cosa? Berlusconi cambia musica. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere. La notizia è questa. Ora, noi non ce l'abbiamo con i giornalisti di Libero, naturalmente, però, insomma, dedicare la pagina 1, 2 e 3 al tema, Berlusconi vuole rifare l'inno ma il nuovo testo non va, il premier chiama l'autore Andrea Vantini per sistemare le parole di meno male che Silvio c'è, il musicista dice c'è un problema di metrica ma se il cavaliere mi chiama non posso fare a meno di rispondere, mi sembra una scelta così, vabbè siamo sotto Natale, le vacanze, quello che volete, però tre pagine di approfondimenti sul testo, ci sono anche delle chicche. Da quando il premier in persona gli ha fatto sapere che si rendeva necessario il cambio di testo della sua canzone cult, onnipresente in ogni cuore e in ogni convention del PDL, il veronese di Pescantina Andrea Vantini è entrato nel panico. E poi aggiunge l'autore di questo articolo, le rivoluzioni, i cambi di strategia politica, le riforme spesso si accendono dalle piccole cose, una calza davanti alla telecamera, un predellino, una bandana nell'estate sarda, una strofa che rende esattamente, questo è il punto, il passaggio da un individualismo simpatico e narciso all'embrasson nu ecumenico, l'incarnazione del suo stesso popolo, uno Silvio centomila. Perché il punto è questo, Berlusconi vuole cambiare l'inno da meno male che Silvio c'è a meno male che tutti noi ci siamo, cioè un modo per rendere l'inno meno forse personalizzato e più ecumenico. A proposito di questo tema, che se vogliamo è quello del nuovo clima politico e del Partito dell'Amore, Marco Travaglio sul suo sito ha già preso di mira il nuovo bersaglio, il nuovo obiettivo è Massimo D'Alema, l'inciucista, sentiamolo. Protagonista dell'inciucio, il prossimo 21, anzi in pieno corso, con il Partito dell'Amore e Massimo D'Alema. Massimo D'Alema ormai non riesce più a nascondere nemmeno per 30 secondi quello che vuole fare, perché è arrivato a un tale livello di inciucismo che gli scappano gli inciuci proprio anche senza volerlo. E quindi l'altro giorno quando una giornalista gli ha chiesto se siamo di nuovo in clima di inciucio, lui ha risposto: beh, insomma, gli inciucci non sono mica sempre stati soltanto delle cose negative. Questa immagine di Travaglio, di D'Alema, che gli scappano inciuci da tutte le parti, così mi ha ricordato quella del dottor Stranamore che non riusciva a trattenere il braccio, non so se lo ricordate, nel film di Stanley Kubrick. 800 24 0024, tra poco, dopo la viabilità. La Zanzara. Un tema che invece promette molta meno concordia, almeno così da Quito, è quello che riguarda il decennale, la scomparsa di Bettino Craxi. Il 19 gennaio saranno infatti 10 anni dalla morte del leader socialista. Letizia Moratti, il sindaco di Milano, vuole intitolare una via oppure un giardino all'interno di un parco della città al leader socialista. Domenica al cimitero di Hammamet, 17 gennaio, parteciperanno al ricordo vari esponenti, ex socialisti, tra cui Frattini, Brunetta, Sacconi. Poi il 19 la Fondazione Craxi, portata avanti dalla figlia Stefania, ha organizzato una commemorazione. Ci sarà anche il Berlusconi, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica Napolitano. Si attendono discorsi anche da Napolitano di riconciliazione. Ma un tema, questo, dicevamo, che divide. Ricordiamolo così, perché nel 1993 Craxi venne salutato prima di partire l'anno dopo per Hammamet in questo modo all'Hotel Rafael. Con questi cori e con le monetine che volarono sulla testa di Craxi. Al di là della vicenda, che è difficile anche riepilogare naturalmente in pochi minuti, il punto io credo è questo: si tratta di riabilitare l'uomo politico, lo statista, il presidente del Consiglio, quello della scala mobile, del concordato, della lotta all'inflazione, oppure anche e soprattutto forse da parte di qualcuno l'uomo perseguitato dalla giustizia, perché tale si sentiva Bettino Craxi. La prima idea è quella, per esempio, di Walter Veltroni. È un dibattito questo che ritorna saltuariamente. Questo quando era ancora segretario del PD, Veltroni parlava così di quello che ci attendeva per i 10 anni di Craxi. Sentiamolo. Craxi aveva sicuramente interpretato meglio di ogni altro uomo politico il cambiamento della società. Lo aveva interpretato dal punto di vista del mutamento sociale, lo aveva interpretato dal punto di vista delle strategie di comunicazione, che non sono poca cosa. La comunicazione felice e moderna del Partito Socialista Italiano, la sua attenzione a tutta una serie di mondi che erano stati prima affrontati abbastanza tradizionalmente, è frutto di una cultura, quella che per me, dal mio punto di vista, so che su questo ci sono opinioni diverse, ma viva Dio siamo qui proprio per mettere insieme opinioni diverse, quella che per me nei congressi di Torino e nella convenzione di Rimini ha il suo punto più alto, secondo me non ripetuto successivamente. Così dunque Veltroni. Per Antonio Di Pietro invece Craxi è stato soltanto un latitante. Noi abbiamo pietà per i morti, ma abbiamo anche nessuna pietà per le bugie. Craxi non è una persona in esilio, è una persona latitante. Nessuno l'ha buttato fuori dal Vitale. È lui che è scappato via per non rispondere alla giustizia. Ed è scappato via perché è stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per corruzione e illecito finanziamento ai partiti. Ma chi era Bettino Craxi? Bettino Craxi era quell'uomo che in Parlamento nel 1993 ebbe comunque il coraggio di dire, di ammettere anche quello che erano le cose per cui era stato condannato, cioè il finanziamento illecito dei partiti. Però disse, e aveva sicuramente ragione, non sono certo l'unico, così fan tutti, se vogliamo, lo possiamo sintetizzare questo passaggio, sentiamo. Ciò che bisogna dire è che tutti sanno del resto benissimo e che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. Non credo che ci sia nessuno in quest'Aula responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Ivan Scalfarotto, vicepresidente del Partito Democratico, è qui con noi. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. Vogliamo parlare con lui anche di quel che succede nel PD in Puglia per queste candidature confuse, primarie sì, primarie no, cose che riguardano il suo partito. Prima però Scalfarotto, visto che tra qualche giorno cominciano appunto le commemorazioni per il decennale di Craxi, lei che opinione ha su questo? Io ho posto la domanda in questi termini: riabilitare l'uomo politico, lo statista o il perseguitato, così sostengono alcuni dalla giustizia? Ma io penso che sulla prima parte sulla complessità dell'opera, dell'azione politica di Craxi, anche per la sua diciamo, lo sforzo di modernizzazione, le intuizioni, io penso che quello che diceva Walter Veltroni, che si sentiva precedentemente, è in larga parte condivisibile. Dopodiché io non penso che si sia trattato di una persecuzione giudiziaria, penso che ci sia stata una vicenda giudiziaria passata in giudicato, dove importanti reati, soprattutto per un uomo politico, sono stati definitivamente accertati, per cui si tratta da un lato di valutare l'azione politica e dall'altra di considerare che comunque Craxi è morto da latitante, cioè da una persona che è stata giudicata dai tribunali della Repubblica colpevole di reati importanti. Le due cose secondo me non possono essere separate. Intitolare una strada o insomma questa questione della toponomastica, secondo lei, per esempio in generale per i politici, c'è chi come Mantovano, lo sentiremo più avanti, del PDL, dice beh, bisognerebbe aspettare almeno 50 anni, e invece d'altra parte c'è una gran voglia invece di riabilitare anche attraverso cose concrete come questa. Io penso che noi abbiamo un grande bisogno di modernizzazione e di questo dobbiamo essere, come dire, l'opera di Craxi è stata sicuramente meritoria in questo senso, ma abbiamo anche grandissimo bisogno di etica in politica e di dare, io credo, degli esempi di buona amministrazione, di buona politica, di pulizia, di trasparenza, e in questo Craxi non è stato un buon esempio, per cui io non credo che sia il caso di intitolargli una strada, proprio perché la sua opera complessivamente intesa resta controversa, con degli aspetti sicuramente di luce, ma anche delle gravissime, pesanti ombre da un altro lato. Scalfarotto, con lei volevamo parlare anche di questo, cioè di quello che succede nel Partito Democratico, ancora, se vogliamo sintetizzare, un po' di confusione, nonostante il cambio di segreteria, il cambio di passo, Bersani, il nuovo clima di dialogo, eccetera, eccetera, però sembra che a non funzionare sia il dialogo prima di tutto all'interno della coalizione di centrosinistra, volendo focalizzare l'attenzione su un paio di casi, il Lazio e la Puglia. Ieri è successo l'impossibile, forse, in Puglia. Lei è uno di quelli che chiede primarie da tutte le parti. Perché il PD non fa le primarie in Puglia per scegliere tra Vendola e Emiliano, per esempio? Questo è un mistero, io le dico la verità, sono molto preoccupato. Io credo, noi abbiamo uno statuto, siamo nati come un partito che vuole avere un contatto forte con i propri elettori, con i propri militanti, ci chiamiamo democratico perché vogliamo essere aperti al dibattito, il che va sicuramente molto bene, ma vogliamo prendere decisioni in modo democratico. Le primarie sono lo strumento che noi ci siamo dati, che poi costituiscono un po' il DNA del nostro partito. Io credo che se noi fossimo andati subito dritti all'uso delle primarie come da statuto, non ci saremmo trovati in una situazione che io definisco imbarazzante e grave. Però mi scusi Scalfarotto, lo statuto di chi? Del PD? Perché qua parliamo di una coalizione più ampia, del centrosinistra. Chi è che dovrebbe decidere sulle primarie in Puglia, per esempio? Parla di primarie di coalizione, non mi pare che per esempio Vendola si sia sottratto a questo processo, al contrario mi sembrava di capire che fosse Emiliano. Quindi è lo stesso esponente del PD che si sottrae alle regole del Partito Democratico in qualche modo. Così, devo dire che oggi ho sentito Emiliano al telegiornale dire che da questa situazione si esce solo con le primarie, me ne compiaccio, penso che avremmo potuto fare questa cosa da prima senza trovarci in una situazione che, ripeto, definisco non appropriata, grave, e devo dire il fatto che l'assemblea di ieri non si sia tenuta non è stato un bel momento per il partito. Senta, in Lazio qualche commentatore anche del centrosinistra comincia a considerare quasi positivamente la candidatura di Renata Polverini, che è una sindacalista, è una donna, è laica, dice qualcuno, è più a sinistra della Binetti. Non vi crea un po' di imbarazzo questo? Ho letto tele- inglese anch'io oggi sul Fatto Quotidiano. Renata Polverini è sicuramente una persona che raccoglie stime bene al di là della sua, diciamo, della sua coalizione. Io penso che noi avremmo dovuto appunto anche lì prendere una linea più decisa, più chiara. Le primarie sono la cosa giusta. Io ho sentito per esempio anche in rete qualcuno suggerisce Emma Bonino, per esempio, personaggi di questo tipo che si sarebbero dovuti tenere in considerazione. Vede, io sono anche molto preoccupato per questa questione delle alleanze con l'UDC, che da un lato sta con noi in certe regioni, in altre regioni invece no. Allora mi chiedo anche che tipo di politica intendiamo fare, se abbiamo forze con le quali ci alleiamo in alcune regioni e non ci alleiamo in altre regioni, e questo ci costringerà a sostenere delle cose in alcuni posti, che so io per esempio in tema di sanità, e sostenere tutto il contrario in altre regioni. Io non penso che questo vada bene. Io credo che noi dovremmo avere una linea più chiara, più comprensibile anche per i nostri elettori, meno ondivaga. Devo dire, sono abbastanza, come dire, preoccupato. La domanda sul clima di concordia, il partito dell'amore, non gliela faccio nemmeno, perché credo che lei non si iscriva in 20 secondi, Scalfarotto. No, al partito dell'amore no, perché poi mi risulta fosse stato già fondato da Cicciolina in tempi precedenti, per cui lascerei stare l'amore ad altri ambiti che non hanno niente a che fare con la politica. Ecco, io invocherei almeno il partito del rispetto, perché questo è un paese nel quale con il razzismo imperante, l'omofobia, il sessismo che ci ritroviamo, già se cominciassimo a rispettarci tra cittadini, a rispettare le istituzioni, cosa che non sempre i rappresentanti istituzionali fanno, sarebbe già un passo avanti. Ecco, fondiamo il partito del rispetto. Grazie Ivan Scalfarotto, vicepresidente del PD, 18:59 in punto, giornale radio, torniamo subito dopo, 824 0024. La Zanzara. 19:16 minuti, 824 0024, gentili ascoltatori, tra poco i vostri interventi, titoli del TG3. Arrestata la sorella del Nobel Shirin Ebadi e molti capi dell'opposizione, Ahmed Nejad accusa l'Occidente e fomenta la protesta. Le sconvolgenti pagine sul blog del terrorista nigeriano, mi sento depresso e solo, falso allarme bomba a Malpensa. La Lega, la cittadinanza è un regalo ai terroristi, serve guerra santa. I Fignani, questo gioco al massacro indebolisce il governo. Due soldati italiani feriti lievemente stamani da un militare afghano che uccide un marine americano. Il lago di Massaciuccoli, minaccia la Versilia, allerta fino a sabato. A Canazei i funerali delle guide travolte dalla valanga. Casini al TG3, sì al legittimo impedimento, no a questo processo breve. Vendola si scusa, dice il suo esquadrismo. Emiliano, sì alle primarie. L'antitrust accusa troppo alti costi applicati dalle banche sui conti correnti in rosso. Codacons chiede una maxi multa. C'è poco lavoro per i braccianti Sikh. Latina lancia avvisi su radio e TV indiane. Non partite, evitate i trafficanti di uomini. Così dunque il TG3, vi segnalo che questa sera c'è su Rai 2 invece la puntata speciale dei Fatti Vostri con l'oroscopo di Fox. Non tanto, lo segnalo per gli amanti del genere, quanto perché Fox è rimasto vittima di una contestazione nell'Italia dei contestatori. Chi è che può prendersela con Fox? Ve lo spieghiamo tra un attimo. Sky TG24. L'Iran sfida il mondo, stretta sull'opposizione, Khamenei ordina a morte i leader. Shirin Ebadi a Sky TG24, gli arresti sono migliaia, accusa il Nobel per la pace. Psicosi, attentati, falso pacco bomba a Malpensa, si indaga per procurato allarme. Esplosivo nascosto negli slip, così il nigeriano voleva fare strage sul volo Delta. Soldato afghano spara contro forze ISAF, feriti leggermente due nostri militari. Italiani rapiti in Mauritania, la russa duro, sono imprudenti, non eroi, dice il ministro. Scudo fiscale, ecco i numeri, rimpatriati 95 miliardi, valgono 6 punti del PIL. Toscana, nuova allerta meteo, si teme l'esondazione del lago di Massaciuccoli. Spaccio di droga all'ATM, chiusa l'inchiesta, 4 indagati, uno è un tranviere. Una via per Craxi, polemica a Milano, Di Pietro dice sulla targa scrivano latitante. Direttamente dalle stelle, il futuro arriva a Paolo Fox. Anche quest'anno, i fatti vostri, il programma di Michele Guardini torna in prima serata con lo speciale Oroscopo 2010. Un evento non è un annuncio per i programmi della serata, è lo spot, sì, che va in onda su Rai 2 per l'annuncio di questa sera, ma perché ve lo facciamo sentire? Perché Paolo Fox è rimasto vittima di una contestazione. Alimenta la superstizione il suo oroscopo, e quello anche di altri naturalmente. Credo che la questione non sia rivolta contro di lui in particolare. Chi è che ha assunto questa posizione? Luca Borgomeo, presidente dell'Associazione di Telespettatori Cattolici, AIRT, ha infatti accusato la RAI di fomentare la superstizione, e d'accordo con Borgomeo si sono detti anche quelli del Consiglio Nazionale degli Utenti, il CNU, un organo che fa riferimento all'Agicom, l'Agenzia per le Comunicazioni, all'Authority per la Garanzia nelle Telecomunicazioni, e il direttore di RAI 2 ha detto della rete, Leo Freddi: la trasmissione andrà in onda, io però sono arrivato, avevano già preso la decisione, quasi a sconfessarla in qualche modo. Il tema politico del momento, ci scherziamo su, potrebbe essere questo, sentiamo. Insomma, Samonamur vince sicuro. Non vedi questo? E vince sì che vince. Oh, ma che te credi che io faccio l'oroscopo? Perché il cavallo è come la donna. Se chi lo viene non è virile, non si eccita. Quando correvo io li tenevo. Allora, mon amour. Vincente. Oh, ma i soldi dalla parte tua ce l'hai? E ce l'ho sì. È il tempo di rimediarlo. Non si è visto Manzoting, il macellaro? Che te sei giocato, Manzoting? A pomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzoting? Mi chiamo Rinardi Otello. Sì, 3 chili di trippa e 2 di budello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare. Allora, che te sei giocato? O sole mio, ma che te frega a te? Te voglio bene, te voglio aiutare. Te voglio dare un cavallo buono. Gioca dei Paganini, quello che c'ha qua la macchia bianca sulla fronte. Guarda che Paganini, non c'ha nessuna macchia bianca sulla fronte. Non vedi questo? Ma si vede che non c'hai spirito di osservanza. Scommetti 20.000 che manco ti ricordi di che colore ti sei messa la cravatta stamattina. Ah, oh, mi tocca a fare questo furto. E dai, scommetti, te che colore ce l'hai? Io porto una cravatta sola, gialla russa, come a Roma. Hai perso, Manzoting, non te la sei messa la cravatta stamattina. Sgancia. Molti avranno riconosciuto Montesano, altri strepitosi protagonisti di Febbre da cavallo, un film, un storico film che ci faceva sorridere sulla passione per il gioco, che è entrata nel mirino sia dell'Italia dei Valori che del Popolo delle Libertà, con due differenti iniziative. Di Pietro, che annuncia misure alla riapertura del Parlamento contro la passione per il gioco, e un assessore di Sanremo, adesso ve lo spiegheremo, che annuncia anche lui misure. Cominciamo con Di Pietro. Il gioco d'azzardo, scrive sul suo sito ieri, è illegale, o quantomeno anche quello non considerato d'azzardo, attraverso il quale lo Stato percepisce entrate fiscali da capogiro, è un'indecenza. È stato riconosciuto dal CNR diversi studi che il gioco scommesse è un'attività che crea dipendenza, dice Di Pietro, come le droghe, il fumo, l'alcol. Non voglio con questo precludere la libertà di un cittadino di poter scommettere o meno. Sto dicendo che al cittadino non può essere venduto il gioco come miraggio di vincite milionarie. Miraggi come quelli degli spot, per esempio. 12, 11 e 10 ti aspettano ogni sabato. E Enalotto, anche tu. Anche noi. Il 12 Enalotto è sempre milionario. Anche noi. Enalotto, un sabato alla grande. Enalotto. Ti piace vincere facile? Gratta e vinci ti circonda di fortuna. Tanti biglietti, tante occasioni. Siedi, gioca, allenati e divertiti con Season Poker. Oggi il jackpot più alto d'Italia è ben 63 milioni e 800 mila euro. E puoi vincerlo anche online. Vinci per la vita, win for life. Tu sei leggero e spensierato. Vinci per la vita, win for life. Finalmente sistemata. Allora, secondo me nel gioco non c'è niente di male, anzi è sempre esistito, fa sognare, da, come dire, un'illusione di vincita, a volte anche una possibilità concreta di vincita. Semmai qualche problema c'è con le slot machine, che creano questa dipendenza ipnotica e che a volte, così come capita a tutti di notare, coinvolge magari degli anziani soli nei bar, e questa è un'immagine più triste. Non so se pensava a questo l'assessore del PDL di Sanremo Gianni Berrino, oppure se pensava alle casse del comune, sicuramente sì, quando annunciava ieri che è pronto un nuovo regolamento dei servizi sociali che sostanzialmente esclude dai contributi dei servizi sociali del comune le persone che sono sorprese, poi chissà come li scopriranno, a frequentare il casino, le sale giochi, i bar e gli altri locali pubblici che offrono slot machine, videogiochi, videolotteri, eccetera, eccetera. Perché non il Super Enalotto, aggiungo io, che è un gioco anche quello. Se il concetto è vi diamo i soldi e li buttate dalla finestra col gioco, allora la concordanza con la posizione di Di Pietro è simile, e forse allora in questa iniziativa del PDL di Sanremo c'entra anche il Super Enalotto. Andiamo sulla prima pagina di Libero, che mi ha stupito, perché anzi nelle due pagine successive sono tre pagine dedicate a un approfondimento dal seguente tema: Berlusconi cambia musica. Cioè, il tema su cui punta Libero con questo approfondimento di tre pagine, vabbè che siamo sotto Natale e tutto quello che vorrete, però a me un po' ha sorpreso, perché insomma poi si parla di personalizzazione della politica, a volte eccessiva, ma qua insomma si fatica a dare un senso a questo articolo, dove ci sono anche un po' di notiziole curiose. Il fatto è che Berlusconi vuol cambiare l'inno, a quanto pare, impegnato in queste ore, meno male che Silvio Cielo vuole trasformare in meno male che tutti noi ci siamo, perché vorrebbe sottolineare, dice questo articolo su Libero, la nuova fase più allargata, più ecumenica, meno centrata su di lui. Insomma, tre pagine con si spiega come il paroliere, il veronese Andrea Vantini, è entrato nel panico, dice il giornalista, perché insomma non sa come far tornare la metrica, perché meno male che Silvio c'è, funziona, meno male che tutti noi ci siamo, è un disastro. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Si discute in queste ore, alla vigilia delle commemorazioni per il decennale della morte di Bettino Craxi ad Hammamet, se e come celebrare, oltre che con le celebrazioni ufficiali che avverranno in sedi ufficiali, Napolitano, Berlusconi e quant'altro, se intitolare per esempio, come Letizia Moratti ha proposto a Milano, una strada, oppure il parco, un giardino all'interno di un parco, e questa potrebbe essere la via d'uscita, perché è un argomento che solleva qualche polemica. Non tutti sono d'accordo, per esempio c'è chi come Mantovano del PDL dice ma insomma, forse è meglio aspettare un po' più di tempo quando c'è la scomparsa di un politico, perché sono sempre fatti che non creano una grande concordanza d'opinioni. Credo che sia questo il suo pensiero, sentiamolo. Da sempre ritengo che la toponomastica e la politica debbano seguire strade diverse, e forse quello che, se non vado errato, proponeva il Riformista qualche giorno fa, di attendere 50 anni dalla morte di un personaggio politico e magari politicamente molto caratterizzato prima di immaginare vie, non è una cattiva idea. Questo Mantovano di qualche mese fa, se no ci sente poi dice ma io questa cosa non l'ho detta ora, no, l'ha detta qualche mese fa, ma il tema è ricorrente, quello dell'intitolare le vie ai politici. Mantovano dice aspettiamo almeno 50 anni. Il punto è riabilitiamo l'uomo politico, lo statista, quello che ha firmato il concordato, che ha eliminato la religione cattolica per esempio come religione di Stato, Craxi della scala mobile, quindi della lotta all'inflazione, l'uomo della politica estera, della nuova politica estera italiana, oppure riabilitiamo l'uomo perseguitato dalla giustizia, perché questo poi avvenne con la sua fuga ad Hammamet, la fuga dalla condanna penale che Craxi rimediò. Questo è il punto. Per esempio c'è chi come l'ex segretario di DS Piero Fassino sul primo aspetto non ha alcun problema, addirittura Fassino l'aveva inserito nel pantheon del PD. Penso che Bettino Craxi fa parte del pantheon delle personalità del Partito Democratico, come De Martino, come Lombardi, come Pertini, come Nenni, come Saragat, come Buozzi, come Rosselli e come Matteotti. Ho elencato tutte personalità socialiste, e in questo pantheon naturalmente ci stanno tante altre personalità delle altre culture politiche riformiste, sia della sinistra, sia cattolico democratico e cristiano sociale. E allora, siete d'accordo? È giusto intitolare una strada, una via a Bettino Craxi a Milano, la sua città natale, oppure, come dice qualcuno, è meglio aspettare, perché Craxi è una figura che divide e ha diviso troppo la storia recente politica e non solo italiana. 824 0024, il numero verde per intervenire in diretta tra poco con Piero da Bari, Paolo da Milano, Giovanni da Roma, Gianni da Modena, Alberto da Verona, Paolo da Macerata e tutti gli altri. A tra poco dopo la borsa. La Zanzara. 19:33 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Allora, come detto, iniziamo con i vostri interventi. Paolo da Milano, buonasera, benvenuto. Sì, pronto, buonasera. Niente, volevo intervenire sul gioco. Dire che io non sono un giocatore, non ho mai giocato, mai fatto affidamento sui giochi. Avendo studiato statistica, so che le probabilità sono basse. E niente, 2 mesi fa mi è successo che per caso con un gratta vinci ho vinto 10.000 euro, mi sono fatto prendere, me li sono rigiocati e ho conosciuto un mondo nei vari bar qua in giro di gente che dalla mattina alla sera gioca, Win for Life ogni ora, poi ce n'è un altro, mi sembra 10 all'8 ogni 10 minuti. Tanti pensionati, gente anziana attaccata a queste macchinette, eccetera. E sento da un po' che fanno un sacco di pubblicità sul gioco responsabile, gioco senza esagerare, eccetera. Cos'è il gioco responsabile? In che senso? Il gioco responsabile è il gioco senza esagerare, che dicono, fanno tanti spot per radio, anche in televisione, e dall'altro spingono a giocare la gente, quindi creano queste illusioni, eccetera. Ecco, ce ne sono talmente tanti che per me non va bene. Io mi sono ripromesso di non giocare mai più un euro, per fortuna non ho problemi economici, che col mio lavoro, quello di mia moglie, andiamo avanti benissimo, però per me... Quindi per lei ci vorrebbe qualche limitazione in più al gioco? Dovrebbero comunque diminuirli, perché sono talmente tanti, c'è una gamma di giochi assurda, di gratta vinci poi che... me li sono rigiocati i costi di gratta vinci, ce ne sono talmente tante, ne escono continuamente, come uno adesso, quello ultimo, Magico Natale, che un biglietto costa ben 20 euro, che se lo compra un pensionato è il giorno è quasi mezza pensione di un giorno che si gioca. Certo che per uno che ha studiato statistica poi tornare a giocare non era una... Mi sono fatto prendere perché di lì a poco ho vinto altri 1000 euro. Allora, da lì mi sono fatto prendere, tant'è che ormai, vabbè, non... Ma il gioco è così, perché si vince e si pensa, non lo so, di poter rivincere sempre, è così che va. C'è anche chi gioca e decide a priori di reinvestire, tra virgolette, quello che ha vinto di nuovo nel gioco per il piacere di giocare. E allora, il resto, insomma, ognuno ha le sue perversioni, mi verrebbe voglia di dire. Io personalmente non gioco mai, però mi riprometto sempre di farlo. Poi arrivo lì e non ci arrivo nemmeno perché, non lo so, perché non ci vado proprio, ma insomma. Giovanni da Roma, buonasera, prego. Buonasera, dottor Maurizio. Certo, io volevo prendere la parola sul discorso di ieri, che De Sica aveva fatto queste dichiarazioni. Sì. Scusi, io c'ho un ritorno, è normale? Che ritorno c'ha? Abbassi la radio, abbassi la radio. No, la radio è spenta. E allora non dovrebbe esserci nessun ritorno. Noi la sentiamo bene comunque. Questo è... No, io c'ho il mio ritorno, il mio ritorno. Vai, proviamo ad andare avanti. No, spiegavo, cioè, che io ho lavorato insieme... alla Pilmauro su questi film che... Dov'è che ha lavorato, mi scusi? In questi film come organizzazione della Pilmauro. E deve sapere, come tutti i radioascoltatori, che il signor De Laurentiis, che è un grande produttore, però è anche fortunato, perché se noi pensiamo che questo film non incassa 10 milioni d'euro nel fine settimana, tutti i proventi e tutti i soldi che sono stati spesi deve cacciare il dottor Laurenti, cosa che è un po' difficile di questi tempi. Vabbè, è un grande investimento, si investe molto, si rischia anche molto, però in genere c'è un grande ritorno perché questi film vanno bene, anche se adesso il confronto rispetto al Cinepanettone l'anno scorso è di una leggera incasso leggermente inferiore. Ma insomma, non ho capito dove voleva arrivare a parare lei. È una cosa ripudiante, visto che io mi occupo pure di cinema indipendente, senza che mi devo fare pubblicità perché sono riconosciuto da altre categorie. Però la cosa più scandalosa, ecco, che vanno dentro un ministero e gli viene riconosciuto questo finanziamento culturale. Che... Ma non è stato riconosciuto, però, mi è stato riconosciuto. Se vuole, io gli mando un fax. Mi mandi il fax. Io quello che so da ieri sul sito del ministero è che è stato inserito nella lista. Aspetti un attimo. È stata ritirata questa cosa perché ha fatto molto clamore. Io dico una cosa: sì. Che ci sono giovani che escono dai cine e TV che hanno delle passioni bestiali, che sono bestie nella con la macchina della presa, e quando vanno dentro un ministero si trovano veramente davanti a un muro di gomma. Questa cosa, come ha detto il ministro Bondi, è che doveva finire, erano pronti per l'opera prima, ecco, bisogna darli... Questo è quello che ha promesso Bondi, in effetti, cioè finanziamenti alle opere prime. Adesso su questa cosa del cinepanettone Beverly Hills vedremo, chiariremo, insomma, su questo c'è trasparenza. Io quello che sapevo fino a ieri è che il film è stato inserito nella lista dei film di interesse culturale che sono passibili di finanziamento attraverso credito d'imposta, un meccanismo insomma un po' complesso, ancora soldi non ne sono arrivati. L'altra questione era quella del film d'essé, lì gli sgravi vanno più che altro a chi proietta il film, a chi gestisce la sala cinematografica. Però anche su quello forse ci sarà un passo indietro, perché in effetti è un po' strampalato che un film come quello sia stato definito film d'essé. Andiamo a Modena, nella provincia di Modena, dove c'è Gianni. Buonasera. Buonasera. Io volevo parlare sul discorso di Craxi. Faccio una premessa: io sono un democristiano dalla nascita, in sostanza ho 63 anni, e vivo in una zona dove il PCI ha delle votazioni bulgare, perciò è chiaro che sto all'opposizione. Io vorrei sapere perché non c'è l'onestà intellettuale in Italia di ammettere che Craxi è stato un buonissimo politico. Poi dicono che ha finanziato il suo partito con i proventi, vorrei sfidare tutti gli altri a dimostrare che loro hanno fatto diversamente. Quindi il punto è, secondo lei, al di là del giudizio sull'uomo politico, che hanno fatto tutti la stessa cosa e quindi? E quindi per me questa persona vuole riabilitata in totum, cioè capisce? È una persona riabilitata in totum, perché politicamente dei politici come lui ce ne vorrebbero una trentina in Italia. Non uno. Il fatto che abbia subito delle condanne passate in giudicato, andiamo a vedere gli altri cosa hanno a mettere in pentola, perché finché non sono stati scoperti, voglio dire, qui il PCI viveva dei finanziamenti russi. Tutti i dipendenti del PCI che operavano nel PCI in Emilia-Romagna erano stipendiati. Tutti gli altri politici democristiani e repubblicani lo facevano per passione, non per stipendio, capisce? Allora voglio dire, bisogna avere l'onestà intellettuale di dire che qualcheduno qualche soldo lo riceveva anche dai partiti. Le tangenti e i finanziamenti dall'estero sono due cose diverse, mi permetta, ma insomma qua se no riapriamo il dibattito. Comunque sono cose diverse, lì ci sono state delle condanne definitive. Ed è anche per questo che esponenti politici, per esempio il PDL come Mantovano, dicono: beh, forse è meglio aspettare un po', perché forse proprio l'aspetto politico della figura di Craxi venga fuori e allontani invece quelle che ancora secondo alcuni oggi sono delle macchie. Non so se lei condivide. C'è ancora il nostro ascoltatore? Sì, no, ammesso sì. Che Craxi è stato quello che è stato e lo rimette nel suo ambito. Per me è anche altro. Fassino questo, fare. Sì, sì. Sì, anche Fassino abbiamo fatto sentire. Per onestà intellettuale lo dovrebbero fare. Va bene, perché grazie. Grazie. Andiamo ad Alberto che ci chiama da Verona. Buonasera. Alberto da Verona, buonasera. È in diretta. Buonasera, Sposini. No, come Sposini? No, la chiamo Sposini perché lei ha la stessa... Ah, sì. La fonetica. No, ma ha lasciato un po' perplesso lì per lì, perché dico, no. Ha sbagliato proprio canale. Prego. Condivide con me il paragone o no? Ma penso sì. Che di qualcuno gliel'abbia detto, sbaglio. No, comunque, non era mai capitato, ma non credo che interessi moltissimo. Questo, ecco. Io sono a favore di quello che ha detto Di Pietro, che ha dichiarato Di Pietro, a parte che io non appartengo a nessun schieramento politico, ma frequento il gioco da una vita e vado sempre al casino tutte le settimane. Mm. E dico che quello che ha detto Di Pietro, io lo dicevo già 3-4 anni fa, è una piaga sociale ormai. Cioè lei va al casino, va a giocare, però si ritiene in qualche modo, mi scusi la parola, un po' un drogato. No, io so gestirmi bene. Mm. Io dico che sono drogati, gli altri. Sono spremuti dallo Stato, i giocatori che vanno nei bar e che giocano dalla mattina alla sera, Totocalcio, Totti, Penalotto, Gratta e Vinci, e poi sono talmente tanti che... Cioè, non mi scusi, ma lei, non ho capito, perché lei si sa gestire e invece quegli altri no, qual è la differenza? Ma non è questo. Io so gestirmi, ma sono il gioco del casinò, se uno sa gestirsi è più onesto, sono gli altri giochi che sono disonesti e non si può far giocare la gente dalla lunedì alla domenica a tutti i giochi. E chi gioca? La povera gente. A parte che adesso il gioco è gestito dalla Lottomatica in concessione da parte dello Stato, che gestisce le macchinette e tutti gli altri giochi. Ma i primi tempi, io mi ricordo quando le macchinette non erano gestite dalla Lottomatica, erano truffaldine al 100%, infatti sono state degli arresti, dei sequestri, come lei ben sa. Sì, sì, questo è vero, sì. Ha dissanguato della gente. Insomma, lei sta facendo, stracciando una linea di distinzione tra chi frequenta i casinò, giocatore in qualche modo più adulto, però beh, insomma, ci sono prove anche clamorose che non è così, perché il gioco sì, è gioco, si perde in tutti i casi. Ci si rovina anche al casinò. Ci si rovina anche e soprattutto forse al casinò. Personaggi famosi. È una scelta diversa, perché forse su questo sono d'accordo con lei, entrare dentro un casinò è un passo più forte, è un passaggio anche simbolicamente, se vogliamo. Invece andare a comprare la schedina si fa con più leggerezza, però sono anche in ballo cifre diverse, questo diciamolo, perché al casinò si perdono anche cifre spropositate rispetto ai 10 euro del Gratta e Vinci. O no? Tutte le ore, tutta la settimana, no. Non è possibile far giocare la povera gente dalla mattina alla sera tutta la settimana. È inaccettabile, ed è una patologia, perché ci sono dei casinò che finanziano dei SER dove viene curata della gente perché è ritenuta una patologia il gioco d'azzardo. Ma non è il gioco d'azzardo solo il casinò, anche le macchinette e tutti gli altri giochi che offre lo Stato. Il biscazziere vero e proprio è lo Stato in questo paese. Questo è il punto. Grazie. Perché è ovvio che anche nel casinò ci si rovina. Conosciamo personaggi famosi, da De Sica, mi ricordo, io lo vedevo, e altri personaggi, Omar Sharif, che si sono rovinati nel casinò. Ma se uno nel casinò si sa gestire. Sì, sì, vabbè, questo è chiaro il concetto, l'ha già abbondantemente spiegato. Grazie anche Alberto da Verona. Andiamo a Paolo, che ci chiama dalla provincia di Macerata. Buonasera. Esatto, buonasera a lei, dottore. Io sono stato bruciato nell'intervento dal signore di Modena. Ma la cosa non mi dispiace, anzi, mi fa molto piacere. Perché vorrei che ce ne fosse qualcuno di più a pensare in questa maniera. Io volevo intervenire su Craxi. Sì. Credo che la riabilitazione dell'uomo politico sia assolutamente dovuta. Ora, non so cosa voglia dire riabilitare il perseguitato dalla giustizia, perché non credo che si possa riabilitare una persona. Però ci vorrebbe, come ha detto il signore prima, l'onestà intellettuale di ammettere che è stato assolutamente perseguitato dalla giustizia. Se lei segue i discorsi, lei ha fatto riferimento prima al primo intervento che ha fatto Craxi nel luglio del 92, sì. Molto coraggioso, credo, e che se la classe politica avesse avuto lo stesso coraggio che ha avuto Craxi, probabilmente oggi staremmo in maniera diversa. Lei ricorderà che una delle osservazioni che veniva fatta era quella: tutti colpevoli, nessun colpevole. Quando Craxi ha fatto quell'intervento. Nella realtà erano tutti colpevoli, ma non perché non c'era nessuno. Questo non voleva dire non condannare Craxi, voleva dire mostrare dalla classe politica la capacità e il coraggio che aveva avuto lui e che solamente lui ha avuto per un periodo, quando ha fatto il Presidente del Consiglio e via dicendo. Io credo che questo sia importante. E vede, quello che sta accadendo oggi in questo paese, riferito a Berlusconi, io non ho avuto la possibilità, ho sentito Scalfarotto prima, ma non ho avuto la possibilità tecnica di sentire l'onorevole Fassino, che è sempre persona molto equilibrata normalmente. Però quello che sta accadendo in questo periodo non è nient'altro che qualcosa che assomiglia molto a quello che è accaduto nel 92-93. Noi abbiamo avuto una classe politica devastata, non mi dica qualcuno che c'è stata moralizzazione nella politica, perché oggi le cose funzionano e non potrebbero funzionare in maniera diversa. Io quindi credo... Sì, no, io invece non sono d'accordo con lei su un punto, sul fatto... io invece credo che la vicenda giudiziaria di Craxi crei ancora negli italiani una netta contrapposizione, per cui mentre sull'aspetto della sua figura politica c'è ormai un'ampia convergenza nel riconoscere il valore politico di modernizzazione, di novità sotto molti profili, ho citato la politica estera, la politica economica e fiscale eccetera eccetera dei governi Craxi, su quell'altro aspetto invece io credo che ci siano preponderanti ancora le divisioni sugli italiani. Sono d'accordo con Mantovano quando dice che dovremmo andarci forse cauti con i riconoscimenti, intitolazioni di strade o quant'altro. Altra cosa poi è la commemorazione che si farà tra qualche giorno dei 10 anni della sua scomparsa. Questa è una cosa che riguarda la sua famiglia, la fondazione e anche valutazioni politiche. Ci sarà l'intervento di Napolitano, quello di Berlusconi e quant'altro, ma sono cose differenti. 1948 824 0024, prossimo ascoltatore, dove andiamo? Roberto da Brescia, buonasera. Buonasera a lei. Mi ricollego all'intervento fatto dall'ascoltatore di Modena, dove in pratica viene a dire che l'hanno fatto tutti e di conseguenza anche lui lo poteva fare. Secondo me questo va a sminuire un po' quello che è il lavoro dei magistrati, cercare di fare il loro lavoro e di dare delle regole a cui ci si deve poi attenere. Quindi di conseguenza il fatto di intitolare e santificare un Craxi che è stato preso con le mani nella marmellata non mi sembra una cosa tanto corretta nei confronti di chi cerca facciamo un esempio, ad esempio dello scudo fiscale, dove appunto chi ha i soldi li può portare, l'hanno fatto tutti e quindi anche quello è una giustificazione. Quindi se vogliamo un attimino rispettare le regole devono partire loro a rispettarle ed essere il nostro esempio, caro contrario finisce che lo fanno tutti, quindi non c'è più un'etica, non c'è più una linea da seguire, secondo me. Grazie anche a questo ascoltatore per il suo intervento. Andiamo a Eugenio che ci chiama da Parma. Buonasera. Buonasera. Prego. Allora, io sono uno dei tanti colpevoli, diciamo, delle ludopatie in Italia, visto che sono un produttore di news slot, quindi volevo... Delle ludopatie la chiamate? Le chiamano così, lei le ha chiamate così, ha detto che se no, no, no, io non ho usato questa parola, però mi incuriosiva comunque il termine ludopatia. Lei è un produttore di che cosa esattamente? Di apparecchi da gioco con vincita in denaro, i cosiddetti new slot. Mm. Quindi io sono uno dei colpevoli, secondo il vostro modo di pensare. No, momento, io ho semplicemente ricordato due iniziative diverse, che sono quella di Antonio Di Pietro, l'Italia dei Valori, che parla di nuove regole per limitare il gioco, ma lui parla anche delle scommesse a livello nazionale, Super Enalotto e quant'altro, e invece l'iniziativa molto più sporadica, però singolarmente coincidente, del Popolo delle Libertà di Sanremo, un assessore che vuole togliere i finanziamenti dei servizi sociali a chi frequenta i casinò, i videogiochi e le slot machine. Sì. Al di là del fatto che lei su questo vive e sopravvive, che effetto le fa questa, per esempio, iniziativa concreta? Dunque, innanzitutto siamo l'unico pezzo del settore giochi che non fa pubblicità, come fanno i vari Sisal, Lottomatica, SNAI, sui loro giochi. E siamo stranamente quelli che danno il 45% delle entrate allo Stato, di giochi statali, regolari, su leggi statali e riferito al PDL. Il 45% delle entrate, non è un po' troppo? Io ho delle stime leggermente diverse. No, cioè su 53 miliardi di euro di entrate, noi diamo 22-23 miliardi di euro di entrate, diciamo, dei giochi, poi di tasse ne diamo circa 3 miliardi di tasse, quindi le cifre sono più o meno la quinta industria italiana, siamo, quindi qualcuno dice addirittura la terza, sì. Sì, la terza in complessivo, ecco. La quinta considerando solo il nostro pezzo, quindi. No, io le dico solo questo, noi le nostre macchinette sono vietate ai 18 anni e non lo sono i grattevinci, noi giochiamo un euro, non promettiamo vincite eccezionali perché possono vincere massimo 100 euro nelle nostre macchinette, senz'altro ce n'è una certa diffusione, ma sappiate che sono contingentate, cioè non se ne possono mettere più di un certo numero in locali, quindi massimo sono 4 in locali da 200 metri, altrimenti sono 1, 2 o 3. Nelle sale giochi sono contingentate, certamente paghiamo le tasse allo Stato, lavoriamo su una legge statale, probabilmente io da produttore la farei diversa la legge per i giocatori, però purtroppo lo Stato ci ha imposto questa legge, quindi io non mi sento colpevole al 100%, certamente meno colpevole di chi mi vende e fa pubblicità su promesse di vincita, quelli secondo me sono molto più colpevoli di me. Va bene, grazie anche a lei per il suo intervento. C'è un altro tema di cui volevamo parlare, perché prima con Scalfarotto, il vicepresidente del PD, abbiamo parlato della situazione candidature regionali in Puglia, con il caos di Vendola che si vuole candidare, anche Emiliano, non si capisce più nulla, ed è perché non fanno le primarie in quella regione. C'è invece un'altra regione dove il PD è sempre fermo al palo, il Lazio, e invece il PDL ha trovato un candidato, pare forte, Renata Polverini, sindacalista, e leggendo sul Fatto Quotidiano di oggi l'articolo di Luca Telese, votare Polverini, punto interrogativo, pare proprio di sì, dice Telese in sostanza. Se il PD non si decide a trovare delle candidature forti in quella regione, allora perché non votare, soprattutto se non si decide a trovare un candidato, perché al momento non c'è ancora un candidato del centro-sinistra in Lazio, perché non votare Renata Polverini? In fondo, dice Telese, è una donna, è laica, si occupa dei lavoratori e almeno, cosa che non guasta, è più a sinistra della Binetti. Sentiamo la Polverini questa mattina, credo, in una ospitata televisiva. Renata Polverini, la sindacalista di destra in rosso, e si chiede: votiamo Polverini? Insomma, è abbastanza curioso. Allora, piace perché è una donna di destra, però amata anche dalla sinistra. Perché Renata Polverini? Riusciamo a sciogliere ma io, questo rebus? Ovviamente bisognerebbe chiederlo a loro, cioè, probabilmente per l'attività che ho svolto fino ad oggi ho invaso qualche campo che evidentemente la sinistra considerava quasi ad esclusivo appannaggio, come quello del lavoro, come quello comunque di aver raggiunto l'apice di una organizzazione sindacale in quanto donna. Insomma, alcune cose sono successe da questa parte quando probabilmente si dava per scontato che succedevano dall'altra. Questa la Polverini, poi credo che fosse su Rai 2 Monica Setta, scherza con Renata Polverini e gli chiede, insomma, gli fa delle domande, gli fa un quiz per capire se è più vicina a Fini nel centrodestra, a Berlusconi o a Bossi. Sentiamo. Allora, vediamo se è più vicina a Fini, a Berlusconi o a Bossi, al candidato del PDL. Vediamo subito. Polo, lei mi dica distinto, come se fosse dall'analista e non dalla giornalista. Polo di cashmere, di seta o di cotone? Seta. Seta, ok. Poi, Capodanno, un invito a cena, a Parigi, alle Maldive o a Pontida? A Parigi. Anna mia! Regalo. Molto tradizionale. A Parigi. Regalo per il 2010. Amore, cioè quello che si aspetta o che vorrebbe. Amore, amicizia oppure passione barra trasgressione? Ma io che penso... Ci deve pensare? No, l'amicizia, perché l'amicizia è più difficile. Senta, le posso dire il responso? Lei è perfettamente in bilico, anche qui diranno che ci siamo messi d'accordo, ma non è vero, tra Fini e Berlusconi. Oh, una perfetto. Certa simpatia per Bossi. 19:55, riprendiamo con gli interventi all'800 24 00 24. Chi sentiamo? Innocenzo da Ravenna, buonasera. Buonasera a lei. Prego. Io volevo a lei e ai suoi ospiti e alle persone che sono intervenuto, quindi auguro anche un buon fine anno, un buon principio. Volevo intervenire sul gioco perché ho sentito parlare prima un altro... Pronto? Sì, la sentiamo, prego. Sì, un altro radioascoltatore è praticamente anche un costruttore di macchinette. Sì, esatto. La realtà è che sul mercato esistono due categorie, ci sono due società, la Sisal e la Lottomatica. La Lottomatica, dopo che la Sisal ha tirato fuori il Win for Life, che sarebbe quel gioco che ogni ora ha un'estrazione, che costa un euro o due euro, ha tirato fuori un gioco incredibile, ogni 5 minuti c'è un'estrazione. Non so se ne eravate al corrente, comunque questa sì, è una cosa ufficiale. Sì, si sa da un po', certo. Allora, io non ho uno schieramento politico da difendere. Diciamo che volendo sintetizzare, perché lei lo dice come se fosse una cosa, un'informazione quasi così, da dare un... non so con che tipo di retroscena, è un allargamento dell'offerta, c'è una piattaforma ormai ampia, certo, di giochi di tutti i tipi, sappiamo che nostra... è un'industria eccezionale, certo, questa che tira tantissimo e fin controllo. Qua non c'è niente di nuovo, prego, sì. Sì, senza nessun controllo, ed è una cosa che sta veramente impoverendo l'italiano. di qualsiasi categoria, dai più poveri ai medi, perché le tabaccherie che una volta vendevano sigarette, oggi non vendono quasi più sigarette, ma vendono giochi di tutti i livelli, da Gratta e Vinci al lotto che si gioca tre volte alla settimana, i super enalotto. Ed è una stanno impoverendo, lei dice, però insomma sono le persone che scelgono, no, di giocare, cioè si compra l'illusione di una vincita, di una vittoria, però lei dice c'è un meccanismo che impoverisce. Allora guardi, le dico solo per fare un esempio: se vai al casinò e ti siedi a un tavolo, il croupier non ti può assolutamente offrire di giocare o coinvolgere, di dire prego, punti anche lei, assolutamente, perché sarebbe istigazione al gioco. Questa è la legge. Vai dal tabaccaio, lui invece ti autorizza e ti invita, gioca da 2 euro, non da 1 euro. Cioè lei ce l'ha a questo punto con le pubblicità, con la troppa facilità di accesso. Ma che senso ha? Bisognerebbe renderli più difficili questi giochi, meno accessibili, non credo che però... Assolutamente sì, ma non parliamo del diciottenne, perché non si rovina il diciottenne ha altre mire, ma è proprio il pensionato, la casalinga, quella che non si era mai avvicinata al gioco, che adesso viene attratta in maniera come una calamita, non può assolutamente fare diversamente, e viene attratta da tutta questa follia del gioco, dove ti illudono che può arrivarti la fortuna in 5 minuti, cosa che in realtà sappiamo benissimo che le combinazioni sono milioni e milioni ed è praticamente solo fortuna, perché altrimenti tanti avrebbero già vinto continuamente. Grazie. 19:59, 824 0024, la pausa, titoli dei TG, torniamo tra un attimo. La Zanzara. 20 minuti in punto, non andiamo ancora con i titoli dei telegiornali, andiamo con gli ascoltatori e riprenderei da Bruno che ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera a tutti, mi piacerebbe parlare del gioco perché sono convinto che... Può abbassare la radio per cortesia perché sennò sì, sentiamo il ritorno, perfetto. Perfetto, ecco, l'ho tolta proprio. Eccoci. Volevo dire questo, vorrei parlare intanto del gioco perché sono convintissimo che ci sono parecchie famiglie che si giocano all'insaputa dei genitori a queste forme di Texas Hold, poker, roba va, cose che per noi diciamo di una certa generazione magari sembrano cose strane e che secondo me stanno creando dei grossi problemi. È vero che il dio denaro impazza e deve essere sempre riverito nel nostro mondo, però mi sembra che veramente stiamo oltrepassando i limiti. Però io volevo chiedere la possibilità di parlare relativamente al signor Bettino Craxi. Sì, io credo che diciamo in questo nostra Italia oramai da 15 anni a questa parte si sia capovolto quello che sono i concetti di etica nella politica, di onestà eccetera, perché ci si azzuffa nel pensare che una tale persona possa essere stata un perseguitato dalla giustizia, ma nessuno si chiede che cosa ha fatto la tale persona per essere perseguitato dalla giustizia. E questo tutto questo succede anche perché bisogna dare una verginità ai politici attuali. Per cui, diciamo, il signor Craxi ha avuto, secondo quello che ha detto un ascoltatore, il merito di confessare di aver rubato, e la sua difesa era: così fan tutti. Benissimo, così fan tutti e mandiamo in galera tutti quelli che si possono prendere, dato che Tangentopoli ha coinvolto circa 2.900 persone, di cui anche 120 del cosiddetto Partito Comunista, il Greganti, roba varia, eccetera. Però chi viene preso con le mani nella marmellata deve essere punito e non può fare il latitante, tantomeno io penso uno dovrebbe dedicare le strade. Però ripeto, questo succede in quanto bisogna considerare che il signor Craxi è specchietto per arrivare alla persona attuale, che evidentemente per una sorta di casualità ha corrotto 3 giudici, tramite l'avvocato Mills ha creato 64 società di evasione fiscale, e potrei continuare fino a domani perché credo di essere molto preparato sui processi del signor Berlusconi. Però tutto questo in questo nostro mondo non conta nulla, perché conta essere convinti o convincere il popolo bue che questa magistratura del cavolo sta sovvertendo le istituzioni. Io credo che su alcune cose lei abbia anche ragione. Io personalmente sono d'accordo sul fatto che, come ho già detto, che non è così pacifico il così fan tutti che possa giustificare una riabilitazione dal punto di vista della questione giudiziaria di Bettino Craxi. Altra cosa è invece la stagione politica del craxismo e quei governi là guidati da Craxi e le riforme e il tentativo di modernizzare l'Italia che vennero fatti. Naturalmente poi sulla interconnessione tra le due vicende si potrebbe parlare per ore, però credo, ripeto, sono d'accordo per esempio con chi come Mantovano dice aspettiamo ad intitolare delle strade perché c'è ancora troppa carne al fuoco che brucia ed è troppo recente. 24 minuti, andiamo con un po' di ritardo con i titoli TG5. A Malpensa ha fatto brillare un pacco confezionato per sembrare un ordigno, ma non c'era esplosivo. Dopo il fallito attentato sul volo per Detroit si indaga sui legami del terrorista. Ondata di arresti in Iran, fermata anche la sorella del Nobel per la pace, Ebadi. Ahmadinejad, le manifestazioni sono una pagliacciata. Un portavoce di Khamenei, a morte gli oppositori. Con lo scudo fiscale rientrati 95 miliardi di euro, oltre il 6% del totale della ricchezza prodotta in Italia nel 2009. Tremonti, uno straordinario successo. Militari al lavoro sul lago Massaciucoli in Toscana per rinforzarne gli argini. Pronti i piani di evacuazione in caso di esondazione. Identificata la transessuale trovata morta a Roma, è un brasiliano di 31 anni. Si indaga tra i clienti, al vaglio, le ultime chiamate sul cellulare. I concerti e le feste nelle piazze d'Italia per Capodanno. Tra smoking e paillette l'imperativo è la fantasia, ma l'intimo rosso non tramonta mai. Tra poco nuova estrazione del Superenalotto, la caccia al 6 vale oltre 111 milioni di euro. Ancora una volta il jackpot più alto del mondo. Vedete che poi le estrazioni trovano spazio anche nei titoli ormai regolarmente dei telegiornali. TG5, TG1 anzi. Allerta maltempo nelle zone alluvionate della Toscana, si lavora per mettere in sicurezza il fiume Serchio e il lago Massaciucoli. Iran, giro di vite del regime, arrestata la sorella del premio Nobel Ebadi che al TG1 dice comunque non mi fermeranno. Scudo fiscale, regolarizzati 95 miliardi, Tremonti, finito il tempo dei paradisi fiscali, tariffe, sale il gas, elettricità meno cara. Obama avverte, lotta senza tregua ai terroristi, Al-Qaeda sfida l'Occidente, paura a Malpensa per un finto pacco bomba. Ultimi preparativi per i festeggiamenti di fine anno, attenti ai botti, sono pericolosi, ne parliamo in studio con gli artificieri della polizia. Per un San Silvestro alla moda gli esperti consigliano acconciature di tendenza dove gli strass diventano protagonisti. E allora completiamo con i titoli della 7. Il presidente iraniano Ahmadinejad definisce le manifestazioni dell'opposizione di domenica una nauseante mascherata promossa dall'estero. Ancora arresti a Teheran, il regime minaccia la pena di morte per i leader della protesta. Nuova allerta meteo in Toscana da questa notte al 2 gennaio. Preoccupa soprattutto la situazione del lago di Massaciucoli. A rischio esondazione, le idrovore sono al lavoro. La protezione civile è pronta a intervenire. Momenti di paura a Malpensa. Gli artificieri fanno saltare un pacco da cui usciva un'antenna, ma non era un ordigno. Due ex detenuti di Guantanamo fra gli organizzatori del fallito attentato sul volo Amsterdam-Detroit. Calcio, mentre si preparano i colpi del mercato di gennaio, il protagonista è sempre José Mourinho. In un'intervista ad un quotidiano britannico, l'allenatore dell'Inter ripete: ho voglia di tornare presto a lavorare in Inghilterra. 824 0024, tra poco dopo la pausa torniamo con gli ascoltatori, 349 238 6666, a tra poco. La Zanzara. 28 minuti, rientriamo come detto con i vostri interventi. Riprendiamo da Luca che ci chiama da Pisa. Buonasera. Sì, pronto, prego. Buonasera. Dunque, io volevo intervenire sempre sul gioco, visto che mi sembra un po' l'argomento principale della serata. E volevo dire che circa un anno e mezzo fa, mi sembra due, ci fu una proposta di pagare le pensioni, diciamo quelle sociali, quelle minime fino a un certo livello, di pagarle attraverso le tabaccherie. Questo naturalmente poteva indirettamente... Mi scusi, indurre... ma non ricordo esattamente a cosa lei fa riferimento, di che proposta sta parlando. No, io ora non mi ricordo. ricordo sinceramente con esattezza i termini di questa proposta, però mi ricordo bene che circa un anno e mezzo fa o due ci fu una proposta di pagare le pensioni quelle meno impegnative, le pensioni sociali e così via, anche attraverso i tabaccai, che dovevano entrare in questo giro da parte del Ministero del Tesoro. Adesso si è spiegato meglio, cioè erogare le pensioni tramite erogare le pensioni ai pensionati appunto attraverso le tabaccherie per facilitare magari le file alle poste o da altre parti. Ecco, meno male questa cosa qui, mi ricordo che poi non è mai passata. Che lei dice, se no si giocavano tutta la pensione nelle scommesse, gli anziani, siccome io pensionati. Conosco un tabaccaio molto mio amico, e quel vicinissimo alla posta, queste persone presa la pensione alla posta, un certo importo lo andavano a giocare subito. Si immagini lei se questo naturalmente poteva avvenire in maniera diretta. Mi riferisco anche all'intervento che ha fatto il signore Innocenzo, mi sembra. Cioè, nessuno però, mi scusi se interrompo, nessuno però degli ascoltatori fino ad ora dà, se vogliamo, a Cesare quel che è di Cesare. Cioè, le persone giocano per scelta, non è che sono obbligate. Certo. Allora, adesso quello che lei sta dicendo, potrebbe esserci una parte di verità. Cioè, uno nel momento stesso in cui si incassa, si ha la possibilità di una spesa facile. Questo però... Certo. Avviene ovunque nella società dei consumi, i negozi, le offerte sono ovunque. Non capisco perché l'offerta di per sé preoccupa tanto chi vede nel gioco qualcosa di negativo. In fondo è una scelta, no? Una scelta libera. Lei ha perfettamente ragione, però c'era una enorme facilitazione nel farlo questo gioco. Io sono d'accordo col discorso che avete ampliato del casinò. Chi va dentro un casinò è un momento un po' diverso, mi sembra, dal fatto di poter giocare indifferentemente tutti i giorni, tutte le ore del giorno. Ecco, io questo volevo dire. Naturalmente, erogando queste pensioni attraverso i tabaccai, mi sembra che fosse un gioco abbastanza facile da parte dei tabaccai stessi. Ecco. Bene, grazie anche per il suo intervento. Dove possiamo andare a questo punto, se non da Francesca, che ci chiama da Biella? Buonasera. Ho ascoltato la trasmissione, soprattutto la parte che riguardava Bettino Craxi. Devo dire che ho votato a suo tempo Bettino Craxi e adesso mi pento di averlo votato. Cioè, io mi ricordo benissimo quando Bettino Craxi era davanti al Parlamento e aveva detto, in sostanza, in soldoni, se io sono ladro sono tutti ladri. No, non mi va bene, anche perché lui è stato accusato e sono stati poi trovati in sostanza dei molti soldi sui conti correnti a Singapore, in Asia in sostanza. Io non lo so se è colpevole o innocente, io dico soltanto che lui non ha voluto andare davanti al processo. Un'altra figura politica di uno spessore leggermente più alto, cioè Andreotti, è stato accusato, si è seguito il suo processo, ha accettato la sentenza. Perché adesso bisogna fare un santo di Bettino Craxi? Ma stiamo scherzando? Allora lui ha ammesso, avendo detto a suo tempo, se io sono un ladro sono tutti ladri, allora adesso dobbiamo farne un santo? Io trovo leggermente l'etica forse un po' lontana da questi ragionamenti. Lei è in compagnia, per esempio, di dichiarazioni poco fa di Matteo Salvini della Lega a Milano, che dice niente strada a Craxi, no grazie, e non ho letto l'agenzia, ma probabilmente le motivazioni sono qualcosa di simile a quello che lei stava dicendo. Grazie. Angelo da Milano, buonasera. Salve. Prego. Buonasera a tutti. Intanto mi aggancio subito alla dichiarazione di Matteo Salvini, ricordando che nel processo Enimont il suo capo è stato uno dei primi a essere stato beccato con le mani nella marmellata e a correre. Bossi, lei parla di Bossi. Sto parlando di Bossi, certo. Quindi chi scaglia la prima pietra certe volte non è esattamente quello privo di peccato. Però volevo fare una riflessione sulle ragioni per cui la figura di Craxi genera dei contrasti di sentimento così aspri, perché da un lato era sicuramente un uomo capace di suscitare fascino sicuramente una importantissima figura politica, sicuramente uno degli ultimi statisti che questo paese ha avuto occasione di incontrare. Dall'altro però aveva, a mio avviso, nel tentativo di emulare i metodi della Democrazia Cristiana, che erano quelli clientelari sostanzialmente, che poi è degenerato in qualcosa di molto peggio e di molto più grave e greve, la capacità di associarsi in qualche modo ad alcune delle pagine più buie della storia di questo paese. Cose che non hanno mai avuto un riscontro processuale, ma che in ogni caso hanno lasciato... Lei a cosa si riferisce, mi scusi? Beh, io mi riferisco a tantissime cose alle quali in qualche modo mi sarebbe piaciuto avere delle risposte da Craxi. Mi riferisco alla sua posizione, per esempio, rispetto al rapimento Moro. Finisce, muore Moro, muore il compromesso storico e il Partito Socialista Italiano diventa di fatto l'ago della politica, della bilancia politica italiana. Mi riferisco alla sua gestione... Beh, però allora, se vogliamo, per completezza, ricordiamo anche che il Partito Socialista era forse tra i pochi disallineati rispetto alla linea della fermezza, quindi questo... No, ma certo, ma questa è la cosa che mi genera più sospetto da questo punto di vista, perché una persona lucida e con il senso pratico come Bettino Craxi, che è l'unico gallo che canta fuori dal coro, secondo me è in cerca di alibi. Però questa è una mia opinione personale, no, ripeto, sto parlando di cose, ho fatto una premessa, delle quali non c'è mai stato alcun riscontro oggettivo, giuridico, processuale, ma anche grazie al fatto che c'è stato un unico processo per quello che secondo me era una delle responsabilità minori che aveva avuto Craxi, che era quello di partecipare al banchetto dei partiti, tutti i partiti, e mi devono spiegare, come si diceva poco fa, per quale motivo Forlani ne è uscito indenne, per quale motivo altri segretari di partito ne sono usciti indenni, e qualche tesoriere è rimasto invischiato e coinvolto, e l'unico segretario di partito che è stato condannato oltretutto in modo non leggero è stato Bettino Craxi. Ma io a Bettino Craxi avevo voluto chiedere di più per quanto riguardava il suo operato nel Corno d'Africa. Mi interessava a fargli delle domande su Ilaria Alpi, mi interessava fargli delle domande sul giudice Palermo che aveva scoperto connessioni di scambio droga-armi fra alcune società legate al PSI e trafficanti. Giudice Palermo che viene trasferito da Trieste a Trapani e gli esplode una macchina vicino alla propria, salvato miracolosamente a Trapani. Pochi anni dopo viene fuori un caso identico a Brindisi, viene trovata una nave carica di armi, le società coinvolte erano le medesime, sempre vicine al PSI, rimosso il giudice di Brindisi. Mi sarebbe piaciuto chiedergli tante altre cose, e l'unica di cui mi importava di meno è stata quella che lo ha trasformato in martire e in esule: il finanziamento illecito ai partiti che veniva praticato sistematicamente da tutti i partiti. Quindi la cosa che mi è dispiaciuta, e l'ho scritto anche sul libro vicino alla sua tomba a Mamet, la cosa che mi dispiace è non aver avuto risposta. Aspetti un attimo, perché allora qua la cosa si fa ancora più interessante. Un attimo di pausa, viabilità, poi ci racconta che cosa ha scritto ad Mamet. La Zanzara. Avevamo al telefono in diretta Angelo da Milano, che dopo aver spiegato tutte le cose che avrebbe voluto chiedere, i misteri d'Italia, Bettino Craxi, poi ha aggiunto, gliel'ho anche scritto, dov'è che l'ha scritto? Ad Mamet, sul libro dei ricordi. Che cosa ha scritto? C'è un micro cimitero all'interno del cattolico con una ventina di tombe, una trentina di tombe, e vicino alla tomba di Craxi c'è un leggio con dei libri su cui viene consentito di scrivere dei commenti, e il commento che mi è venuto istintivo di scrivere è che il suo silenzio, ormai purtroppo eterno, mi impedisce di fargli tutte le domande che stavo facendo poco fa in pubblico. Mi spieghi però, scusi, che cosa mi sarebbe piaciuto si aprissero adesso che cosa l'ha spinta, scusi, ad andare lei che comunque non mi sembra che fosse innamorato della figura di Craxi, che cosa l'ha spinta ad andare ad Hammamet? A parte il fatto che non ero insensibile alla figura di Craxi da un punto di vista del riconoscimento di alcune doti politiche che si fanno fatica oggi a ritrovare, ma a parte questo è quasi inevitabile, passeggiando per Hammamet, fare la passeggiata che cammina davanti al cimitero, e allora a quel punto la mia impertinenza mi ha spinto fino ad andare a scrivere sul libro. Però ci sono degli altri aspetti inquietanti, per esempio, concludo con questo perché non voglio togliere spazio agli altri. Io ho altre domande da fare, per esempio sulla morte di Falcone, perché se informazioni sui movimenti di Falcone sono arrivate sì, però guardi, mi scusi ma la interrompo qua perché abbiamo parlato abbastanza, adesso se mi va anche a Falcone qui diventa, facciamo una puntata monotematica sulle sue domande a Craxi. Grazie, ci fermiamo qua. E invece salutiamo l'onorevole Lucio Barani. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. Onorevole Lucio Barani, eletto dentro il PDL, ma proveniente dal nuovo PSI, è così, Camera. Lei è stato anche sindaco di Aulla, o non lo è più attualmente? No, ho fatto 14 anni sindaco di Aulla, poi per incompatibilità, per la legge non lo permette più, poi ho fatto 5 anni sindaco di Villafranca, un comune vicino ad Aulla, quindi 19 anni che ho fatto il sindaco, ormai credo di aver dato già fin troppo, e durante la mia carica di sindaco ad Aulla nel 2000 ebbi modo di dare in vita nel 99 la cittadinanza onoraria a Bettino Craxi, gliela andai a consegnare ad Hammamet con tutto il consiglio comunale, lui la accettò in una giornata memorabile e storica in cui ufficialmente si è detto cittadino aulese, dicendo anche nei periodi di gloria me l'hanno data di San Paolo, di Los Angeles, di Parigi e nei periodi di Miami so quanto di difficoltà sì. Voi, a me in particolare, che il prefetto e l'allora ministro degli interni Bianco mi hanno sospeso da sindaco perché avevo portato secondo loro una cittadinanza onoraria ad un galeotto. Ma lei ha fatto dell'altro, perché oltre alla cittadinanza onoraria poi adesso ci spiegherà il complesso delle motivazioni che l'hanno spinta, perché io ho fatto una distinzione tra la riabilitazione in questi anni dell'uomo politico Craxi, la sua come dire, la presa d'atto a distanza di 10 anni di quello che di più anni di quello che è stato il governo, ma insomma 10 anni dalla sua scomparsa, e invece tutte le questioni che hanno riguardato le vicende giudiziarie, la fuga da Hammamet, le condanne, le tangenti, eccetera eccetera. Qual è il motivo per cui bisogna andare avanti? Lei sindaco, la chiamo sindaco perché è stato per 14 anni sindaco, e da sindaco di Aulla ha fatto qualcosa di più della cittadinanza onoraria, ha fatto questa statua che ha fatto discutere un sacco di tempo, tirandosi dietro critiche, reazioni. È un'imponenza unica. Adesso è ancora là la statua? Col marmo di Carrara, è lì che sovrasta, dove tutti sti comunisti quando passano di lì devono chinare lo sguardo, si vergognano. E perché devono chinare lo sguardo? È perché ovviamente essendo stati loro i carnefici di Bettino Craxi e dei socialisti, normalmente i carnefici poi si vergognano, si pentono anche. Però oggi questi carnefici mostrare. Non ci sono più, perché io ho fatto sentire due passaggi di Veltroni e di Fassino che entrambi sostanzialmente usavano parole abbastanza positive, molto positive nei confronti del Craxi politico. Ci mancherebbe altro, è la storia che ha detto che Craxi aveva ragione, solo la cronaca cattocomunista l'ha condannato. Craxi non ha bisogno di essere riabilitato. Oltre che i giudici, mi scusi, perché anche i giudici l'hanno condannato, oltre alla cronaca cattocomunista. Certi giudici giudici, quei giudici che poi i giudici dei processi nei quali era coinvolto. Zelaya ha rivoluzionato, ha rivoltato quelle sentenze dicendo che non gli è stato permesso di difendersi. Lui era un esiliato, qui c'era un accanimento nei suoi confronti senza precedenti. Beh, tecnicamente la parola esilio, lei lo sa, non si può usare, no? Solo per Bettino Craxi. Barani, tecnicamente la parola esiliato non si può usare perché Craxi è andato via per non subire gli effetti della condanna. No, lui è andato via per non essere qui, lo avrebbero ucciso come poi lo hanno ucciso ad Hammamet. Cioè, qui bisogna parlare non della morte di Bettino Craxi, 10 anni dall'assassinio di Bettino Craxi, ma lo sapete che non gli si è permesso neanche di venirsi a curare in Italia, lo si fa per gli animali. E non gli si è fatto per un leader politico che scusi però Barani, adesso non la seguo più perché sul fatto dell'esilio, sul fatto di quello che lei sta dicendo adesso non è così. Beh, lei lo sa benissimo, Craxi è andato in Hammamet per non subire gli effetti di una condanna, ma ci sta tutto, ma non è esilio quello. Ma quale reato ha commesso? Quale reato ha commesso? Non beh, qualunque fatto, reato abbia non commesso. Non ha preso una lira, non ha preso, a quei tempi c'erano ancora le lire, si è sempre comportato correttamente ed onestamente e in Parlamento, di fronte allo scranno supremo della rappresentanza del popolo italiano, ha detto a tutti quelli che erano lì qual era il finanziamento pubblico dei partiti e qual era la prassi che tutti condividevano. A quel punto nessuno si è alzato da quello, quindi lui ha detto la verità al suo popolo. Ma questo io sono d'accordo con lei, ha perfettamente descritto quello che è successo. Craxi fece quella famosa affermazione, nessuno del 92 più alto momento della non lo so se italiana. È più alto momento, su questo forse sospenderei un attimino il giudizio perché la storia italiana è ricca di altri momenti. Da qui però a dire che Craxi è stato ammazzato, certo. Mi sembra che il passo sia un po' lunghino. Ed è per questo, vede Barani, è per questo che poi la sanità a tutti, quello che sì. Obama ha fatto adesso. Mi scusi però, Craxi, mi scusi, non ha... 78, Però mi scusi, è per questo io l'ho già detto e lo ripeto anche a lei e poi le chiedo che cosa ne pensa, che non arriveremo ai riconoscimenti a Craxi, perché con questo, secondo me, vicinanza da quello che è successo, quella che lei chiama la cronaca, con quello che dice anche lei, il fatto che è stato ammazzato, come si fa a arrivare a dei riconoscimenti condivisi sulla figura di Craxi se si usano queste espressioni, questi toni? Non sarà possibile perché è un tema che divide, o no? Non si può continuare a sentire i comunisti che inveiscono nei confronti dei socialisti e di Bettino Craxi. Insomma, devono loro farsi un esame di coscienza e sapere... Però oggi non ci sono più né i comunisti né i socialisti, Barani. Dal dopoguerra ad oggi. Barani, però non so se gliel'hanno detto, non ci sono più né i comunisti in Parlamento, per esempio, e né i socialisti. Lo dice lei che non sono comunisti, perché D'Alema che cos'è? Non è un comunista, ma mo esiste. Bisognerebbe chiedere a lui, attualmente fa parte del Partito Democratico e credo che... L'ha mai sentito parlare di dire abbiamo sbagliato? Allora glielo faccio sentire, lasciamo un attimo da parte D'Alema che non ce l'ho qua sotto mano, le faccio sentire Veltroni, così uno a caso, Veltroni da segretario del Partito Democratico quest'estate su Craxi, il comunista che lei stava dicendo, sentiamolo. Craxi aveva sicuramente interpretato meglio di ogni altro uomo politico il cambiamento della società, lo aveva interpretato dal punto di vista del mutamento sociale, lo aveva interpretato dal punto di vista delle strategie di comunicazione, che non sono poca cosa, la comunicazione felice e moderna del Partito Socialista Italiano, la sua attenzione a tutta una serie di mondi che erano stati prima affrontati abbastanza tradizionalmente, è frutto di una cultura, quella che per me, dal mio punto di vista, so che su questo ci sono opinioni diverse, ma viva Dio siamo qui proprio per mettere insieme opinioni diverse, quella che per me nei congressi di Torino e nella convenzione di Rimini ha il suo punto più alto. Secondo me non ripetuto successivamente. Questo era Veltroni. Barani, le faccio sentire, visto che lei lo citava, anche D'Alema, a proposito di Craxi. Non ricordo a quando risale questo frammento, poi dopo glielo dico. cosa è servito il socialismo italiano? È servito a rendere questo paese più civile e più giusto. La parola socialismo ha ancora un futuro? Che appartiene al passato. Però questo futuro progressista contiene il socialismo. Se tornassi indietro, ti alleeresti con Craxi? Molto prima di Tangentopoli, ma non dipendeva da me allora, diciamo, ero piccolo. Ero piccolo, però si sarebbe alleato con Craxi, D'Alema, Barani, allora? Ma il lupo che si vuole mangiare la nonnina e si mette al suo posto per poi mangiarsi il Cappuccetto Rosso, ma è gli errori che hanno fatto sia durante la resistenza, sia nel dopoguerra, il triangolo della morte, l'aver sostenuto i carri armati di Praga, di Varsavia, l'Unione Sovietica, il finanziamento da un Stato straniero per farci invadere dai paesi dell'est, ma ce li dimentichiamo, ma dove viviamo? L'accanimento contro i socialisti e Craxi in Parlamento negli anni 80 e negli anni 90, ma ci dico il costo del lavoro, la scala mobile che hanno fatto referendum, hanno fatto lo sciopero, Berlinguer in prima linea, ma la memoria, io sono anche un medico, qui ci abbiamo bisogno di Giaro Vital e di farmaci per riportare la memoria al popolo italiano. Cominciamo perché... a ridarla a D'Alema, tanto lo incontrerà in Transatlantico appena riprendono i lavori parlamentari, gli consigli qualcosa per la memoria, visto che è quello che stava dicendo. Grazie, ci fermiamo qua, 20:29, ringraziamo Lucio Barani, onorevole del PDL. Abbiamo le borse 824 0024, torniamo tra un attimo. La Zanzara. 20:32 minuti, ben ritrovati, 824 0024, riprendiamo con i vostri interventi al numero verde, riprendiamo, da dove riprendiamo? Da Marco che ci chiama da Reggio Emilia, dalla provincia di Reggio Emilia, buonasera. Buonasera. Prego. Io al di là dei giudizi sulla vicenda giudiziaria di Craxi volevo fare un'riflessione sull'eredità politica. Sì. Si è parlato di Craxi che ha contribuito alla modernizzazione del paese. Io volevo sottolineare tre aspetti che secondo me sono un'eredità molto negativa della politica di Craxi. Dal punto di vista politico si parla della modernizzazione del paese. Nel periodo del craxismo, diciamo così, non c'è stata nessuna riforma istituzionale rilevante. Anzi, il famoso referendum ci fu un tentativo di boicottaggio dicendo andiamo tutti al mare. Dal punto di vista economico, il periodo del craxismo corrisponde all'esplosione del debito pubblico. Sono state fatte delle riforme positive, ma pagate come? Il pubblico l'abbiamo ancora sulle spalle in questo momento. Dal punto di vista sociale, Craxi ha valorizzato i ceti cosiddetti emergenti, ma la valorizzazione dei ceti emergenti come è avvenuta? È avvenuta facendo leva sul ognuno fa quello che riesce a fare, che può fare, che gli pare di fare. Ad esempio, butto lì il tema dell'evasione fiscale. I ceti, tra virgolette, emergenti sono emersi anche in un certo modo con una certa, come dire, connivenza con un fenomeno di evasione che ha raggiunto delle dimensioni stratosferiche. Questo solo per citare alcuni spunti per le sì, quali. Sì, grazie perché anche per la sintesi. Sì, vabbè, non mi metto a commentare le cose che ha detto perché andremo lunghi. E allora andiamo con i titoli del TG2. Scudo fiscale 5 miliardi di euro, la soddisfazione di Tremonti, uno straordinario successo, il tempo dei paradisi fiscali è finito. A Malpensa scatta l'allarme bomba e viene fatto brillare un pacco sospetto, psicosi terrorismo negli scali di tutto il mondo, ritrovati i diari del nigeriano del fallito attentato in USA. In Iran arresti eccellenti fra gli oppositori, un rappresentante dell'Ayatollah Khamenei dice a morte i capi della rivolta, il presidente Ahmadinejad accusa Stati Uniti e Gran Bretagna. In una tregua del maltempo sul lago di Massaciuccoli si lotta per rinforzare gli argini, con i soccorritori al lavoro nelle case allagate. Intitolare una strada a un parco di Milano a Bettino Craxi è l'idea del sindaco di Milano Letizia Moratti a 10 anni dalla morte del leader socialista. Molti i consensi, critico Di Pietro. Il caso di Van der Sar, portiere del Manchester United, autorizzato a non giocare più per stare vicino alla moglie gravemente malata in Olanda. E non è il primo a fare una scelta di vita. No, una cosa la voglio dire, perché rispetto all'ascoltatore precedente non ho capito bene che c'entrava Craxi con la questione dell'evasione fiscale. Tra l'altro, se non ricordo male, fu proprio il ministro, credo Visentini, dell'economia, del tesoro dell'epoca, ad aver introdotto, e sicuramente era un governo Craxi, le macchinette, i registratori di cassa, lo scontrino fiscale. Vi ricordate? Fu una svolta, parliamo di più di 20 anni fa, quindi diciamo i giovanissimi forse non se lo ricordano, ma insomma questa è un'altra di quelle cose legate a quel periodo. 20:35, riprendiamo con Michele che ci chiama da Milano. Buonasera Michele, ci sente da Milano? Sì, prego, in diretta. Sì, buonasera, chiamo da qualche tempo per parlare male di Di Pietro, ma mi va male perché stasera Di Pietro ha detto una cosa buona. Cioè, cosa ha detto di buono? Che è contrario alla pubblicità sul gioco. E che io sono totalmente d'accordo. Io sono comunque un giocatore minimo, niente sì. di A che, cosa però, gioca? Lotto, Superenalotto, come tutti, ma i 2 euro, i 3 euro, queste cose qua, non cose da... Però condivide la preoccupazione su questa malattia del gioco? Sì, assolutamente sì. Io sono indignato quando vedo la pubblicità del Lotto, del Win for Life e queste cose qua. È una cosa che è altro che immorale, voglio dire. Però mi scusi, lei gioca, dice che non, insomma, qualche euro non ci trova niente di strano. Io ho detto si gioca da sempre, fa sognare tutto quanto. Poi si indigna per le pubblicità. Sì, perché? Sì, perché io l'euro lo vado a giocare consapevolmente. La pubblicità invece spinge gente che non è tanto a posto e magari ci casca. E comunque non è un bel modello che diamo ai giovani, invece di dire non andare a lavorare, ma gioca all'otto che tanto vincerai e potrai campare per tutta la vita. È un messaggio che non ci può stare, assolutamente. Va bene, grazie. Grazie. Andiamo a Marzio, che ci chiama da Imperia. Buonasera. Buonasera. Prego. Posso parlare? Sì. Niente, in merito all'intenzione di intitolare una via a Bettino Craxi, sono pienamente d'accordo, però ecco, i cittadini dovrebbero scegliere questa via. Io non sono milanese, non so come si chiama la via davanti a San Vittore. Quella forse sarebbe la via più adatta per il carcere di Milano. Sì, ecco, sì, ma Viale Papiniano. Sarebbe la via con una piccola didascalia, la via che avrebbe dovuto percorrere se non fosse stato un latitante. Io sono un conterraneo di un altro grande socialista, quello un vero socialista, Sandro Pertini, e invito quell'onorevole del PDL, se ha occasione di passare davanti al cimitero di una piccola località in provincia di Savona, che si chiama Stella, che penso che gli italiani conosceranno, che ha dato i natali a un altro socialista che è andato in esilio per altri motivi, di abbassare la testa, ecco. Forse sarebbe meglio, visto che è stato iscritto formalmente allo stesso partito, ma forse con motivazioni diverse. Sì, perché Barani diceva che chi passa sotto la statua di Craxi, i comunisti che passano sotto la statua di Craxi devono abbassare la testa. Io gli ho ricordato che di comunisti ormai ce ne sono pochini in giro per l'Italia. E va bene, insomma, lei sposa la linea in qualche modo di Di Pietro in questo caso, che a proposito di Craxi ha detto era un latitante, punto e basta. Tutti i cittadini onesti sentiranno la mancanza di gente come Pertini ed Enrico Berlinguer. E dopo un'ultima considerazione, quando sento Fassino o D'Alema dire che aveva ragione Craxi e non D'Alema, e non Berlinguer, dopo il portato politico a questa situazione in cui si trova il PD, che è in balia di gente come Casini e vari, che sono solo con la Francia, con la Spagna, purché se magna. Ecco, l'Italia è ridotta a questo. Ecco, volevo solo fare questa ultima considerazione. La saluto, la ringrazio. Marzio, da Imperia. Marina, dalla provincia di Venezia. Prego, buonasera. Buonasera a lei. Io volevo parlare del gioco, appunto. Sì. È vero che le persone si possono rovinare anche dal tabaccaio. È successo a me, è successo alle persone che conosco. E veramente... A lei che cosa è successo esattamente? Che ti prende il lotto, ti prende, e io sono arrivata a spendere milioni anche con milioni. Con un numero soltanto. Sì. Parliamo sì, di lire, sì. Ovviamente, negli anni. Sì, insomma. Parliamo di lire, perché dopo ho giocato meno, ma comunque è stato quello la punta massima. Ma mi spieghi una cosa, visto che io ho detto, insomma, ma vogliamo lasciare la libertà di arbitrio alle persone, di scegliere di giocare o non giocare, non capisco perché queste preoccupazioni, per esempio, sulla pubblicità dei giochi, perché tutti dicono sono le pubblicità che inducono a giocare. Lei si riferisce a anni in cui forse le pubblicità non c'erano nemmeno, però andava a giocare lo stesso. No, ma dopo ho cominciato, dopo ho continuato, ma anche perché poi non ho più potuto mangiare niente, perciò... Ma le pubblicità, voglio dire, l'offerta conta o non conta? Cioè lei andava a cercare le ricevitorie a prescindere dalle pubblicità, da tutto quanto? Cioè lei andava, punto e basta? Vai a prendere il giornale, vai a prendere le sigarette e prendi 2, 3, 4, 5 gratta e vinci, poi un paio di volte alla settimana giochi all'otto e continui a giocare, poi continui a perdere e poi giochi per rifarti, perché speri sempre che giochi, perché speri di cambiare la vita e poi speri di rifarti e invece cadi sempre più giù e non ti rendi neanche conto. Secondo lei adesso bisognerebbe fare qualcosa oppure bisogna semplicemente sperare che la gente non cada, altre persone, in quello che è accaduto a lei, e comunque insomma lasciare alle persone di scegliere. Non creda, continua a cadere continuamente. Io ho visto delle vecchiette proprio mettere lì la pensione su un numero soltanto, perché quando tu cominci a mettere dopo pensi sempre di rifarti. Ma quindi cosa bisognerebbe fare secondo lei? Bisognerebbe vietare la pubblicità? La roba più brutta è che lo Stato faccia pubblicità del gioco. Prima di tutto lo Stato non dovrebbe fare pubblicità. E poi veramente ti prende, perché vai dal tabaccaio, lì ci sono le ricevitorie e tu comi adesso con i gratta e vinci da 10 euro, da 20 euro. Cioè io ho visto delle persone, adesso io non posso più, ma ci sono delle persone che prendono 2, 3, 4 gratta e vinci da 10 euro, sono fuori di testa proprio, poi rimangono là imbambolati su un tavolino con un bicchiere o un caffè, cioè io lo vedi negli occhi che stanno pensando. Mamma mia, che scena triste, grazie per il suo intervento. Grazie a lei, buonasera. Io ho detto che non lo so, non frequento molto le sale a gioco, anzi per niente, non scommetto. Qualche volta mi piacerebbe farlo di più di quello che faccio, perché comprarsi il diritto a sognare una vincita, secondo me, è una cosa che mi incuriosirebbe, lo farei. Non ci vedo niente di straordinario. Devo dire però che l'immagine descritta dalla signora è davvero agghiacciante, e purtroppo a volte entrando in qualche bar, forse sono più le slot machine, non lo so, si vedono dei personaggi che si aggirano intorno a queste macchine e c'è questa aria un po' ipnotica che dà da pensare. 20:43, la pausa la rimandiamo tra un paio di minuti. Sentiamo prima un ascoltatore. Chi sentiamo? Danilo dalla provincia di Varese. Buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Se può abbassare la radio così la sentiamo forte e chiaro. Allora, una considerazione non politica, umana, riguardo a Craxi, che secondo me è molto importante. Sì. Ma mi viene da pensare un po' a quando si andava a scuola, no? A me è capitato, per esempio, a scuola, che magari in un compito in classe, perché c'era un professore un po' così così, riuscivano a copiare tutti, e magari veniva beccato uno, no? Allora si diceva, ah, poverino, poverino. Questo è quello che è successo in quegli anni lì, cioè tutti mangiavano. Ha pagato uno per tutti, lei dice? No, ascolti, il signore prima ha detto che sono state arrestate 2000 persone, ma se noi pensiamo che le tangenti c'erano a livello nazionale, a livello regionale e a livello comunale, io penso che non 2000, ma neanche 20.000, forse erano 200.000 le persone da arrestare. Quindi secondo me, da questo punto di vista, tutti hanno un senso di colpa nei confronti dell'unico, cioè dei pochi. Beh, non è stato l'unico però, perché adesso sta passando l'idea che Craxi è stato l'unico che ha subito una condanna e che quindi ha pagato per tutti. Non è affatto così, adesso se no sembra che diciamo delle cose che non sono così. Craxi è stato forse il personaggio politico più illustre ad aver subito delle condanne, però ce ne sono stati molti altri, qualcuno ha fatto la cifra di 2000, ma insomma sono stati scritti libri e libri su Tangentopoli, condanne, altrimenti non potremmo parlare di terremoto politico se fosse tutto limitato come si fa normalmente a proposito di Tangentopoli, se tutto fosse stato limitato solo a Craxi. Allora, già che ci siamo, facciamo anche la viabilità, poi semmai sentiamo l'ascoltatore, facciamo terminare l'intervento. 824 0024. La Zanzara. Riprendiamo con Marino che ci chiama da Firenze. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Eccoci qua, prego. Io ho ascoltato le dichiarazioni farmificanti di Lucio Barani, veramente sembra proprio completamente... L'onorevole del PDL, ex sindaco di Aulla, sì. Ex sindaco di Aulla, e tra l'altro credo abbia fatto una statua a Craxi, cose di questo genere, insomma siamo fuori dal mondo. Craxi, quello che è stato come... Non so se ha il viva voce, mi scusi, o se ha la radio accesa, la abbassi perché altrimenti sentiamo il ritorno, prego. Diciamo che... è stato un personaggio della cronaca e questo nessuno lo nega, perché ci sono stati 3 gradi di giudizio e quello che è stato, è morto latitante, non certo esule, latitante perché aveva rubato, aveva fatto quello che aveva fatto, insomma, quindi giustamente è stato condannato, anche se purtroppo non ha restituito una lira che è una lira di quello che si era messo nelle tasche. Vorrei dire anche che è stato un pessimo statista, sia per il fatto della scala mobile, per il fatto che emetteva botte così senza criterio, tanto per dire, almeno finanzia tutto le botte, ha portato il debito pubblico dal 70 a 90 mila miliardi, ma vogliamo scherzare, ma ci stiamo dimenticando di tutte queste cose, favoriva l'evasione fiscale. Farei una distinzione, se mi permette, poi la lascio proseguire, sulla scala mobile e sul debito pubblico, perché sì. Sulla scala mobile... vista col senno di poi è considerata, credo, da tutti una decisione ampiamente positiva per il paese. L'inflazione scese, io ricordo, da livelli a 2 cifre, 15-20%, a livelli del 3-4%. Questo può certo dire che è stata la scala mobile a far scendere l'inflazione, e questo è un fatto che diciamo così che molti la associano, adesso però non entriamo. Molti la associano a quello, lei non è d'accordo. Però altra cosa è quella del debito pubblico, che è cresciuto in quegli anni, aveva cominciato a crescere con i governi anche precedentemente democristiani, ma poi in quegli anni è cresciuto, e questo, come dire, è stata una modernizzazione che gli italiani hanno pagato anche in qualche modo a loro spese, si potrebbe dire una volta tanto, spese che sono andate a buon fine se quelle riforme vengono giudicate positivamente, altrimenti no. Però ripeto, sono 2 cose diverse. Sul debito si può discutere, sul l'inflazione oggettivamente bisogna ricordare che scese da livelli mostruosi a livelli sopportabili. Questo credo che non ci sia rimpianto per questo, almeno così la penso io, però non mi addentrerei troppo in ricostruzioni economiche, perché forse stiamo qua fino a domani. Comunque prego, finisca se devi ancora dire qualcosa. No, ho praticamente finito. Vorrei dire che praticamente ha distrutto il sindacato, ha distrutto il mondo del lavoro. Se oggi abbiamo perso tanti diritti come lavoratori, lo dobbiamo a Craxi. Abbiamo perso con il discorso dell'inflazione. Perché ha distrutto il sindacato? A regredire quelli che erano i diritti dei lavoratori conquistati con anni di lotte, di fatiche, di sacrifici, eccetera. Ma perché dice ha distrutto Craxi, ha distrutto il sindacato addirittura? Ha distrutto anche il sindacato, perché con la storia della scala mobile il sindacato poi ha perso forza, perché chiaramente c'è stato questo, una specie di sfaldamento del sindacato, ecco, una specie di indebolimento, il sindacato a un certo punto non ha contato più niente. Più che ha perso forza, ha perso poi un referendum la CGIL, quindi... Ha perso il referendum, anche perché Craxi, insomma... è da statista dire è andata al mare e non è andata a votare, io non lo so, o è da... Va bene, grazie. 20:50, ancora qualche minuto per gli ultimi interventi. Da dove riprendiamo? Marco dalla provincia di Roma, buonasera. Buonasera, breve intervento, sì. La mia considerazione personale sulla questione del gioco d'azzardo e dello Stato e le sue implicazioni. Secondo me il problema non è tanto se sia giusto o no che lo Stato permetta la pubblicità sul gioco d'azzardo, ma quanto debba entrarci o partecipare lo Stato nel gioco d'azzardo, e quindi un aspetto morale. Io la lascio con un breve racconto che mi fece un uomo molti anni fa per indicare un po' come stride la partecipazione dello Stato nel gioco d'azzardo. Mi disse: c'è un padre con 10 figli, una sera gli propone un gioco: cari bambini, 100 lire per uno, ognuno ha un numero da 1 a 10, papà estrae un numero e chi viene estratto vince 500 lire, perché a quel tempo c'erano le lire. Dal gioco, un bambino, un figlio contento di aver vinto 500 lire, 9 figli scontenti di aver perso 100 lire e c'era un papà contento che ogni giorno vinceva 500 lire. Io sinceramente, applicato allo Stato, non la vedo tanto morale come questione, a prescindere se poi pubblicizza o non pubblicizza. È proprio la partecipazione in sé che in dimensioni molto più grandi e elevati ci racconta una situazione che dal punto di vista morale non mi piace tanto. Cioè lei lo ammette solo se non lo fa lo Stato, se lo fa il privato. Se lo fa lo Stato no, se lo fa il privato sì. Cioè il casino... Io dal punto di vista morale non lo ammetto in nessun modo, assolutamente la vedo come una questione poco morale, ma quando poi il protagonista, il promotore, non soltanto da un punto di vista pubblicitario, ma proprio come istituzione, sì, è lo Stato, considerando poi quello che insomma sembra ormai evidente, produce anche da un punto di vista psicologico, quindi... Sì, però io insisto che si dimentica che sono le persone che scelgono di giocare liberamente e questo secondo me taglia un po' la testa al toro a argomenti come il suo, non lo so, insomma, dove sta l'obbligo di giocare, mi scusi? Che è un gioco strano, specialmente in considerazione dei risultati che può portare, sempre in senso metaforico, su alcuni bambini, su alcuni figli, e qui sembra che c'è chi ci si rovina perché sarà psicologicamente debole, tutto quello che vogliamo, che lo Stato sa molto bene quando arrivano i coinvolgimenti psicologici e cose del genere. Facendo un bilancio di tutto quello che sta provocando, continuare a mettersi simbolicamente, ma non volgarmente, in tasca ogni giorno tanti soldini, quando c'è qualcuno che forse vince e tanti altri che perdono regolarmente... Questo è matematico, è così. Ci sono sicuramente molto, molto, molto, molto, vado avanti fino a domani, molto meno quelli che vincono, che vincono di quelli che perdono. Su questo non c'è ombra di dubbio. Però mi pare che nella massa di persone che giocano, i casi di chi viene abbindolato siano una minoranza, cioè la maggior parte delle persone giocano per scelta. Pronto? Sì, pur sapendo di tutto ciò che c'è dietro, sì. Però ecco, non mi piace come gioco proposto da un buon padre di famiglia, non mi piace. Preferirei va bene. Grazie. Un gioco diverso. Tutto qui, grazie, buonasera. Grazie. Andiamo a Sandro dalla provincia di Venezia. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Allora, io volevo parlare a proposito di Craxi e quindi di tutto il fenomeno. In realtà gli ascoltatori precedenti sono stati bravissimi, hanno detto veramente tutto. Quello che mi premeva era una considerazione di fondo che prende solo spunto dal problema Craxi per estendersi ai comportamenti che vedo in giro. Da parte mia, se non fosse da piangere, sarebbe da ridere. In realtà sento tutto questo atteggiamento di autoassoluzione da parte di tutte le persone che in realtà dovrebbero essere le più candidate a spiegare a noi popolo come ci si deve comportare, e le vedo tutte attente a dire: ma così fan tutti, ma il malaffare è diffuso, ma lo sapete, ma siete degli sciocchi, ma non vi rendete conto. Ci rendiamo conto benissimo. Il problema è che io vivo e vedo tutti i giorni, sono circondato tutti i giorni e vedo tutti i giorni persone oneste che si guadagnano da vivere e sono soggette a tutte le regole, a tutte le regole. Quindi non capisco perché ci sia questa facilità e questa faccia tosta da parte di una serie di loschi figuri che poi purtroppo abbiamo messo noi in certe posizioni, sia quelli passati, sia quelli presenti, sia quelli che ci saranno, che offendono la nostra intelligenza, ma anche la nostra dignità di cittadini. C'è veramente tantissima gente onesta che si guadagna da vivere con la fatica e assolutamente non si arrischia a compiere alcunché di irregolare o di illegale. Non è vero che così fan tutti loro, ma non è vero che così fan tutti, e questo non è un buon motivo per autoassolversi. Grazie, pochi minuti per chiudere, proviamo a fare ancora un paio di interventi. Mauro da Milano, buonasera. Buonasera, Per legarmi a una piccola cosa che ha detto un signore prima della posta, sto pensando alla vecchietta che meno male che non la danno in posta, cioè che non la danno dal tabaccaio, che non la registrano dal tabaccaio, ma la vecchietta che vuol giocare esce dalla posta, attraversa la strada, fa 100 metri e va a giocare. È quello che dico anch'io, sì. Poi a me non è mai capitato di andare da un tabaccaio che mi avesse detto se vuole le sigarette e il caffè le comprare gratis vinci. No, ma non esiste capitato. Questo, almeno no, nella mia esperienza. Non mi piace, per legarmi a quello che ha detto prima il signore, è che il nostro Stato, avendo moltiplicato questi giochi come l'otto prima una volta a settimana, poi tre, ha visto che la gente abboccava, incassa di più sicuramente. Questa è una cosa che non mi piace molto, però è anche vero che, non so, mio nipote, se non ci arriva un giocattolo sulla scaffale, per la sedia e la va a prendere, no? Io vorrei concludere con una cosa molto cattiva, farò arrabbiare molta gente, offendere molta gente, però io ho il coraggio di dirla. Potremmo, in qualche modo, poi lascio lei il commento, se si potesse misurare il grado di intelligenza di chi gioca e di chi si rovina. Punto. Vabbè, insomma, che dire, 20:57, lasciamo la parola all'ultimo ascoltatore, che è Canzio dalla provincia di Modena. Buonasera, Canzio, si chiama così? Canzio, sì. Canzio, prego, prego. Provincia Mirandola, esattamente dal comune di Mirandola. Mi riferivo all'intervento che ha fatto l'onorevole deputato, non so, Barani. Lucio Barani, sì. Sì, che non ho capito che è del partito della libertà, il partito dell'amore, il quale usa termini tipo cattocomunisti che hanno assassinato, esiliato, Craxi e altre parole. Se questi sono i termini, quale può usare un rappresentante di non so di quanti voti, questo è l'appianare, come dice il nostro presidente, abbassare i toni. Non mi sembra, io mi sono sentito... Canzio, fermiamoci qua, mi scusi, ma siamo andati già troppo lunghi, l'ho troncata malamente, la richiamiamo domani. Grazie a tutti, grazie anche a Mattia Nocchi, Chiara Ronzani in redazione, Valeria Bernardi in regia. Ci sentiamo domani dopo alle 18:30. Radio 24, la passione si sente. La Zanzara.